para analisar as relações Brasil-Itália, Domenico Silipoti. Este governo foi colocado lá para resolver alguns assuntos econômicos que a hoje não conseguimos resolver. La Zanzara. E ancora a casa. Pensano sia normale che la fine debba arrivare, non aspetta neanche il Natale, ma il divino dice no, niente fulmini e saette, profezia da serie B, niente mondo fatto a feste, ma si canterà così. Mai al mondo verrà la fine. Hai capito, David? Ma non promette nulla di nuovo, nulla di buono promette questa canzone, nulla di buono. Ma io che devo fare con te? Cosa devo fare con te? No, mi dici cosa devo fare con te? Cioè, cosa devo fare? Non lo so, ditemi voi dall'altra parte, che devo fare? Ammazzarlo, sopprimerlo, strozzarlo, non si sente niente. Non si sente niente. Ma dove diavolo sei? Sono a casa mia col mio telefono. Ma l'hai riconosciuta la voce di questa canzone, sì? Ma certo, è arrivato il circo in città. Io devo dirti la verità, quando sento parlare della questione mai a fine del mondo, che non ho mai voluto toccare nemmeno nelle metafore, nemmeno nelle battute, eccetera, metto mano alla pistola. Esatto. Cioè, quando sento solo la parola maia, prendo la pistola, mi piacerebbe prendere la pistola e sparare, come disse il non particolarmente democratico signor Goebbels. Esatto. Che sosteneva, quando sento la parola cultura metto mano alla pistola, ed effettivamente, insomma, non era proprio un simbolo della cultura il signor Goebbels. No. Però Berlusconi oggi l'ha evocata. Senti. Presento un'ultima cosa, oggi è il 21 dicembre, lei teme la fine del mondo? Sì, io come tutti, insomma, non ho mai creduto che ci potesse essere un'eventualità del genere, però ho detto ieri a chi mi faceva questa domanda, potrebbe essere una buona occasione per farsi un bel esame di coscienza, e credo che tutti da un esame di coscienza potrebbero guadagnarci. Hai capito? È bisognerebbe lui. Farsi un esame di coscienza. A me non me ne frega nulla, non è che il 21, il 22, il 23 mi devo fare un esame di coscienza. Ma se lo faccia lui l'esame di coscienza. A proposito di Maia, senti Bitonci della Lega Nord, oggi alla Camera, proprio nel giorno conclusivo, siamo alle battute finali ormai, Monti fra poco andrà a dimettersi. Maia, i Maia avevano ragione, finisce Monti, un'altra cazzata, su. Oggi scopriamo che le previsioni dei Maia di centinaia di anni fa non sono poi state sbagliate di molto. Avevano annunciato per oggi la fine del mondo, intanto però oggi finisce per fortuna il governo Monti. Se noi diciamo Elo, voi rispondete Im. Elo? Im! E nel frattempo, mentre Bitonci parlava, la Fornero si tappava le orecchie. La Lega è stata uno dei più strenui avversari del governo Monti, anche usando parole molto forti, critiche anche da fini alla Fornero, che si è tappata le orecchie e poi è uscita. Bisogna ascoltare sempre i deputati, ma uno può anche uscire dall'aula. Quisquilie. Sentiamo Bitonci. Debito pubblico che supera i 2.000 miliardi. Con 80 miliardi. Che succede? Che succede con lei? Che succede? Continui, la prego. Sì, grazie. Grazie Presidente, mi dispiace perché... Poi ci vorrebbe una bella punturina, una bella punturina, qualcuno suggerisce da 1.000 ml. Da 1.000 ml per Reguzzoni. ex capogruppo della Lega in Lombardia, Bossiano di Ferro, in, alla Camera, Reguzzoni. Bossi resta l'uomo più lucido della politica italiana. Di quanto la facciamo la punturina? Qui no, ci vogliono due fiale da 1000 ml. Due fiale. Lo vedo però sempre un uomo molto determinato, ma soprattutto credo ancora oggi l'uomo più lucido di tutta la politica italiana. Ce ne vogliono un paio, sì, effettivamente un paio potrebbero anche non bastare, L'incredibile Favia, non è importante, il tuo amico, Favia, quello che ti manda ogni tanto dei messaggi mentre dico le mie cose su Grillo, il quale cerca di capire se può usare il logo. Ma scusa un attimo, io vorrei capire. Ma di che stiamo parlando? Basta, questa, vuole usare il logo 5 Stelle, perché? Perché è stato eletto. Ma smettiamola, via, fuori! Io ovviamente risponderò alla lettera che ho ricevuto in seguito a una verifica legale in cui sto cercando di capire se posso continuare a usare il logo. Nel caso in cui fosse possibile, chiederò. Se noi diciamo Elo, e intanto Grillo dice: Berlusconi Elo, è contro la casta, una cosa Elo, pazzesca. E adesso Berlusconi, che va in televisione, il nano, il mannano malefico, ha detto che vuole fare delle leggi contro la casta, lui, le leggi contro la casta, ha detto due mandati e metà stipendio, ma è pazzesco, copiano, bellissimo, che copino! Ho tutti i media contro l'incredibile vittimismo di Grillo. Non è vero, tra l'altro, non è vero che ha tutti i media contro. Tutti i media contro, tutte le televisioni contro. Loro, tu non sai, tu magari sei di Santoro, tu sei della Sette, spiate. No, voi non riprendete, voi spiate dal buco della serratura. Siete veramente vergognosi. Tu chi sei, per esempio? Tu chi sei? Sei un TG3, lo capisci che il TG3, avete aperto un TG3 una volta con un'immagine di uno con dietro il simbolo del Movimento 5 Stelle, e questo qua si è presentato all'apertura del TG3 nazionale, non regionale, e questo qua ha detto: io voglio candidare al Movimento 5 Stelle perché sono contro la pasta asciutta. Sembra Berlusconi quando va a queste intemerate contro l'informazione, il grande complotto contro di lui. La cultura è la stessa. Ti ricordi Berlusconi e Fini e Casini, orridi, orridissimi, te li ricordi, sì? Vengono entrambi, sì certo, ma vengono entrambi dalla cultura dello spettacolo, sia Berlusconi che Grillo, no? Sì, sentiamo Berlusconi, orridi, orridissimi intanto. Io le posso dire che ho una grande delusione sulle persone che in passato sono stati con me. Le due delusioni più grandi sono naturalmente Fini e Casini. E Tremonti? Tremonti ha delle sue idee. Tremonti è tutt'altro, non è assolutamente confrontabile con questi due. Questi due sono veramente delle persone orride. Orride. Non posso, anche peggio, orridissime. Orridissime. Nella maniera più assoluta. Fini, orrido, e Berlusconi che non viene mai in Parlamento. Presidente, volevo chiederle come ci si sente, se si sente solo nella categoria degli orridi o degli orridissimi. Di cose orride ne stiamo vedendo tante, insomma. Non ho ancora avuto modo di vedere l'onorevole Berlusconi seduto sul suo banco di deputato, quindi anche questa mi sembra una cosa orrida. Ed è una risposta garbata da Presidente della Camera in sede istituzionale. In altre sedi si potrà rispondere anche in altro modo. In Parlamento ci si dovrebbe stare anche quando non si è Presidente del Consiglio. Sì. Mi sembra proprio una cosa orrida. Mai dire Maia, mai dire Maia. Mai dire Maia, mai. Caro Don De Capitani, caro Don De Capitani, il prete eretico, il prete pazzo, diciamo così, in senso buono lo dico, anche se uno potrebbe dire di tutto su un prete che si scaglia in questo modo contro Berlusconi, ma non solo contro Berlusconi. Don De Capitani, prete nella Bergamasca, questa volta se la piglia con noi, questa volta se la piglia con noi, senti, soprattutto con te. David Parenzo, fin quando lui dice la sua, può dire anche che io dico le stronzate, è libero di dirlo, come io sono libero di dire che lui non soltanto dice le stronzate ma le fa. Lui ha fatto carriera, lo sappiamo bene come ha fatto carriera, giornalisticamente è insignificante, va in giro a fare interviste, ma fa pena. Non giudico questo, affare suo. Ha avuto tanto culo nella vita e va bene, fortunato. Ha ottenuto le raccomandazioni, affare suo, è stato fortunato. Ma lui non deve permettersi di giudicare la mia persona dandomi dei titoli. Hai capito? Sì, sei stato bacchettato anche da Don De Capitani. Ma dove l'ha detta questa stupidaggine? Ma che ne so, sul suo sito, sul suo blog, che ti interessa? Non è importante. È fortunato perché io non lo querelerò. Quanto sei moscio oggi, mamma mia. Santoro, il ritorno dei morti viventi. Invece io vedo paradossalmente il vecchio che è come se è il ritorno dei morti viventi, non so se mi... piano piano vediamo fatemi quel telefono per favore, mi fate quel numero, fatemi quel numero. Mai dire Maya. Chi è? Taci. Categorico. Stanno facendo le compere di Natale, figurati. Vodafone, servizio di segreteria telefonica. Ciao. In questo momento il tuo amico è impegnato in una situazione molto toccante. Appena si libera, dirò che hai chiamato. Forse. Dopo il segnale acustico, registri il suo messaggio. Caro onorevole Galli, caro capogruppo, ex capogruppo Galli, Lega Nord, Regione Lombardia, noi la stiamo cercando da qualche giorno, ma non le vogliamo fare del male. Vogliamo che lei risponda a una semplice domanda. Ma possibile che non si era accorto di aver inserito la fattura del rimborso, la fattura del conto del ristorante dove sua figlia si è sposata, sua figlia Valeriana, tra le cose da farsi rimborsare dalla regione, perché alla fine lo abbiamo pagato noi, 6.000 euro, poi lei adesso ha restituito la somma. Com'è possibile che non se n'era accorto? Ci risponda, per favore. Io la combatto da ore, punge e poi fugge da me e cerca il posto migliore. Beh, Monti annuncerà forse domenica le sue decisioni. Intanto Berlusconi dice: non ho ricevuto nemmeno una telefonata, si è un po' risentito, dunque sarò costretto a fare io il federatore. Guardando soltanto all'interesse del paese, ho detto che anch'io ero a disposizione per ritirarmi e per lasciare che il federatore fosse lui. Oggi stiamo aspettando una risposta ufficiale, sembra che Monti, che d'altronde non ha ritenuto nemmeno di farmi una telefonata, sia su altre posizioni, e vedremo prossimamente che cosa dichiarerà, e quindi io mi vedo costretto è la parola, nell'interesse del paese per senso di responsabilità, ad essere ancora io il federatore dei moderati. Poi dice anche il dinosauro era Mario Draghi. Un attimo. Stupendo. Prima gli vota contro e poi dice perché non mi ha telefonato. Ma che c'entra che gli vota contro? Lui aveva invitato Monti a fare il federatore. Ma... è tutta una finta, è evidente. Ma che c'entra il voto contro? Adesso il voto contro non c'entra nulla. A parte che non c'è mai stato un voto contro. Ma lui giustamente, quando gli hanno bocciato... 2 settimane fa i suoi provvedimenti. Ma non hanno bocciato nessun provvedimento, ma stai vaneggiando, non sai le cose. Non hanno bocciato nessun provvedimento. La crisi deriva tutta da lì, da quando loro si sono attenuti alla Camera. Ma non hanno bocciato nessun provvedimento. È strano sfiduciare, è una forma di sfiducia quella, mi pare evidente, sì, con 2 settimane fa. Ma non c'è stato nessun provvedimento bocciato. Ma come non hanno bocciato nessun provvedimento. Astenersi sul provedimento. Sì, ma non era. È chiaro, no? Che poi Alfano ha sfiduciato, tra virgolette, Monti. Dopodiché Berlusconi pensava che potesse fare il federatore dei moderati, ma Monti non lo ha chiamato. Qui non risponde il signor Giuseppe Angelo Giammario, 52enne, consigliere regionale della Lombardia del PDL, neofondatore di un movimento di PDLini per Mario Monti, il quale si sarebbe fatto rimborsare 90 euro per i gelati pagati forse ai bagnanti lombardi, in Liguria però. 90€, 90. Sembra, sembra. Siccome era in linea con noi e poi adesso non risponde più, caro signor Gianmario, se lei vuole spiegare per il motivo per cui ha utilizzato soldi nostri per pagare i gelati, soprattutto se ci vuole spiegare se la cosa è vera, ecco, risponda al telefono, la prego, risponda al telefono, altrimenti per tutta la sera la inseguo, non si preoccupi, fino alle 21, abbiamo tempo, la inseguo tutta la sera, fino alle 21. Mi adorano perché... Aspettavamo da lei una spiegazione, caro signor Gianmario, per questi gelati pagati ai lombardi in Lombardia. Vero, non vero, forse, come li ha spesi, come non li ha spesi. Risponda al telefono, era collegato con noi prima, risponda al suo telefono e così chiariamo tutto, no? Perché lei ci sta ascoltando in questo momento, caro Gianmario. Mauro da Como, 800 24 00 24, il signor Gianmario, prego. Mauro. Sì, buonasera, sono Mauro, ecco, volevo dire... Ah, poi il signor Gianmario ha detto anche, signor Gianmario, consigliere generale della Lombardia, neomontiano, ha detto che prendeva molti taxi, perché c'erano anche i taxi tra i rimborsi, perché non guidando io potevo leggere e studiare per prepararmi all'attività del consiglio. Siccome doveva fare tante cose, preferiva andare in taxi al consiglio. Soprattutto quelli in mano ai comunisti, Canale 5, Italia 1, non fanno vedere queste immagini. Ma quale immagini di cosa, Mauro? Immagini di che? Manifestazioni di giubilo e di ringraziamento a Silvio che ci ha salvato dalla fine del mondo. È incredibile, guardi, adesso c'è una diretta in questo momento, sì. CNN, il David Letterman Show, tutto in diretta, e sì. Telecafone, quella di Napoli dove lavorava, sì, la Francesca, che stanno facendo la diretta per ringraziare Silvio Berlusconi, e naturalmente lui è ospite d'onore in queste tre televisioni. Sì, beh, non siamo arrivati ancora, non siamo arrivati ancora a questo punto, eh? Io però me l'aspetto, da uno che poi, da lui che poi si proclama, lui, sì, si proclama... leader dei moderati, lui sarebbe lì, lui e la Lega sono... Vabbè, i moderati. Andiamo avanti, poi? No, dico, basta, Riccardo punto... da Milano, buonasera, grazie. Riccardo? Sì, carissimo Cristiani, buonasera. Dica. Senta, io non so, volevo ridere, ma purtroppo a me viene la nausea, sa, non lei, quando mi fa sentire i nostri politici. Cioè, io oramai ho la nausea, non so se, visto che loro non se ne vanno da questo paese, datemi una mano ad andarmene io, perché non ne... Ma lei se ne può andare da solo quando vuole, sì, Riccardo, certo, non si preoccupi, nessuno la trattiene. Però che ci viene a dire che noi dobbiamo farci un esame di coscienza. Berlusconi, lui, ma... tutti ha detto devono farci un esame di coscienza. Tutti, tutti. Vabbè, quello è vero, in teoria tutti si devono fare un esame di coscienza sempre, non è che c'è bisogno dei Maia però. Ah no, quello poi, quello poi... E poi cosa? Ah no, però adesso Ingroia ha appena detto: sono stati cancellati i diritti dei lavoratori, calate le retribuzioni, un modello Marchionne simile alle ferriere dell'Ottocento. Ma in che paese pensa di vivere il signor Ingroia? Ecco, ha appena detto. Bravo, ha appena detto. Che... Sono stati cancellati i diritti dei lavoratori, calate le retribuzioni, un modello Marchionne simile alle ferriere dell'Ottocento. Bah, questo è l'esordio come politico oggi di Ingroia. Pino da Como. Ah, grazie Riccardo. Pino da Como, buonasera. Questo è legittimo, fa il leader politico. Sì, sì, sì, vabbè, è legittimo anche dire stronzate, uno si aspetta da Ingroia, magari, forse, si aspetta da Ingroia qualcosa di un po' più... No, sono stati cancellati i diritti dei lavoratori, calate le retribuzioni, un modello Marchionne simile alle ferriere dell'Ottocento. E vi dico solo questo. Pino da Como. Sono qui. Sì, poi quale sarebbe il modello Marchionne? Il modello Marchionne sarebbe fare investimenti e aver salvato dal fallimento la Fiat. Questo è il modello questo, Marchionne, secondo Ingroia. Tutti parlano del modello Marchionne. Il modello Marchionne è fare, per adesso, è fare investimenti, magari, cioè fare gli interessi della Fiat. Investimenti e aver salvato la Fiat dal fallimento. Questo è il modello Marchionne. Pino da Como. È così male? È così negativo? Bah, Pino da Como. E non ma lascia perdere, quelli sono tutti dettagli. Pino da Como. Pino da Como, ma qui squiglie. Quisquilie contro il referendum. Quisquilie. Vabbè, però quisquilie. È una valutazione, no? Sì, certo, questo è, secondo me è quisquilie. Questo è il modello Marchionne. Pino anche da Como, anche... stai zitto, Pino da Como. Silence, Pino da Como. Allora. Vada. Okay. Sì, sì, ci siamo, se lei non parla, Pino, abbia pazienza. Ma un'altra voce sopra. No, io volevo semplicemente dire che su uno di quei cittadini che aveva diritto al Movimento 5 Stelle, vedendo in grido il Movimento 5 Stelle una speranza... una, diciamo, come ha detto, una clava, no? Per rottamare, come si dice adesso, la partitocrazia, la vecchia politica, eccetera, eccetera, è un movimento creato dal basso, tale, uno vale uno, bla bla bla, e alla fine mi sono accorto in pochi venti che in realtà la cassa è all'interno del Movimento 5 Stelle. La casta è all'interno del Movimento 5 Stelle? In che senso? La casta di Casaleggio e Grillo? La casta che fosse, la casta di regole, il vertice intoccabile e inimmaginabile. Inavvicinabile. Va bene Pino, grazie, non sento nulla. Massimo da Pavia, buonasera. Buonasera. Dica. Senta, volevo parlare dei leghisti del Consiglio regionale. Sì. Cioè che... prendono come scusa dei loro ladrocini il regolamento, no? Sì. Ma non si rendono conto che non esiste solo il regolamento, esiste anche un'etica, una morale. Bravo. Cioè, io voglio dire, quando quello là ringrazia... Un attimo. Questo è sempre... Boh. Gianmario? Non lo so, vediamo. Iniziano subito a farmi arrabbiare questa sera, eh? Iniziano subito a farmi arrabbiare questi signori. Massimo, allora, che diceva? Vodafone. Massimo, no. Dica. Sì, Ingroia dice che Marchionne non ha fatto bene il suo lavoro, nel senso che non ha mai presentato un piano industriale. Sì. Non ha detto una stronzata, come dice lei. Ma chi? No, lei dice Ingroia. Che Ingroia ha detto una stronzata. No, Ingroia ha detto un'altra. Ingroia ha detto lei una cosa. Dice scusa. Che ha salvato la Fiat. Allora, Marchionne. Lasci perdere la valutazione. A parte che è vero che l'ha salvata, ma lasci perdere la valutazione su questo. Allora, dov'è la frase di Ingroia di prima? Dopo gliela rileggo. Sono stati cancellati i diritti dei lavoratori. In generale, lui dice, calate le retribuzioni, non solo con riferimento alla Fiat, un modello Marchionne. Calate le retribuzioni, o no? Un modello Marchionne simile alle ferriere dell'Ottocento. Ma lasci perdere le singole valutazioni. Cioè, secondo lei ma questa ha ragione, qua. Ha ragione Ingroia. Va bene, ha ragione. Secondo lei ha ragione Ingroia. Secondo me dice un cumulo di stupidaggini da questo punto di vista. Su questo punto, sono stati cancellati i diritti dei lavoratori, calate le retribuzioni, un modello Marchionne simile alle ferriere dell'Ottocento. Le ferriere dell'Ottocento. Ma dai, su. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte perché affonda il becco su di me. Ai, ai, mi ha beccato. Ai, ai, tra l'altro beccato. Berlusconi oggi ha anche detto se ti candidi a Monti scordati il Quirinale. Giravolte su giravolte. Monti è passato da diventare il federatore dei moderati a... un piccolo politico, scordati il Quirinale, eccetera eccetera. Tutto questo perché non è arrivata la telefonata, dice Berlusconi, molto risentito. La telefonata che Monti avrebbe dovuto fare a Berlusconi, non mi ha nemmeno risposto. Guardando soltanto all'interesse del paese, ho detto che anch'io ero a disposizione per ritirarmi e per lasciare che il federatore fosse lui. Oggi stiamo aspettando una risposta ufficiale, sembra che Monti, che d'altronde non ha ritenuto nemmeno di farmi una telefonata, sia su altre posizioni, e vedremo prossimamente che cosa dichiarerà, e quindi io mi vedo costretto è la parola, nell'interesse del paese per senso di responsabilità, ad essere ancora io il federatore dei moderati. E sempre gira intorno a te. E balli un twist, e balli un twist. Titoli del TG3. Intanto Ingroia dice: sono disponibile a candidarmi. Dopo l'ennesimo balletto, prima sembrava che avesse detto ancora, aspettate ancora. Il PM Ingroia, ma chiede un passo indietro a Di Pietro, Di Liberto e Ferrero. Dice: non vi dovete candidare in sostanza. I leader delle formazioni della sinistra facciano passo indietro, cioè già detta legge, dice a quelli che dovrebbero aiutarlo, Di Pietro, Di Liberto e Ferrero, voi non vi dovete candidare. Cose incredibili. Beh, che stanno accadendo. Cose incredibili. Dice che vuole volti nuovi. Sì, ho capito, adesso appoggi pure Ingroia. Dico, Ingroia dice sono disponibile nessuno a candidarmi, e a Di Pietro, Di Liberto e Ferrero dice voi dovete fare un passo indietro, si può fare politica in altri modi, cioè già detta legge. Ma non è che lo difendo, lui dice le mie condizioni per candidarmi sono queste qui, voglio una lista di facce nuove e mi candido premier, fine. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. La Camera approva la legge di stabilità, ultimo atto della legislatura, accordo su firme e liste pulite, Monti al Quirinale per le dimissioni. E il professore fa il suo bilancio, 13 mesi difficili ma affascinanti, il paese è più affidabile, siamo alla fine ma non per colpa dei Maia. Berlusconi attacca Monti, non mi ha mai telefonato, per questo scendo in campo per riunire io i moderati, ma se si candida dice addio al Quirinale. Alla Camera l'ultimo discorso di Veltroni, che non si ricandiderà, basta col passato, il paese deve guardare al futuro, onesto riconosce i meriti di Monti. Buste paga ferme, prezzi in salita, fiducia delle famiglie ai minimi, Banca Italia con le riforme, ripresa fine 2013. Nel Sulcis nuova protesta per il lavoro che non c'è, un gruppo di operai da un anno in mobilità si è murato dentro la miniera di Villa Marina. Napolitano interviene per Sallusti, al giornalista condannato per diffamazione il carcere viene commutato in una pena pecuniaria. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino, ruggisce tutta la notte. Segnalatori di autovelox, spazzolini con il nome inciso sopra, così sembra, Mojito, Negroni, Red Bull e altre cose ancora. Ma perché non se li pagano con i soldi loro? Perché li inseriscono? Perché li inseriscono, poi dicono a loro insaputa, nei tagliandi, nelle ricevute che consegnano alla segretaria per i rimborsi? Perché? Perché sono sbadati o sanno benissimo che dopo vanno a finire nel grande calderone dei rimborsi regionali? Semplicemente traccioni, molto più semplice. Mi è arrivata una segnalazione prenatalizia. Dimmi. Busto di Almirante, sì, nel presepe vivente in Vaticano. Ma non faccio il cretino, non faccio il cretino. Io aiuto. Poi. Vuole il mio aiuto. Mi spiace. Il dinosauro di Berlusconi era Mario Draghi, adesso sono io. Addirittura dice che voleva proporre Mario Draghi, ma Mario Draghi è alla Banca Centrale Europea, ma di che stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Divento pazzo. Avevo detto che avrei estratto un dinosauro dal cilindro, avevo un dinosauro da mettere in campo, pensavo dentro di me che il dottor Draghi potesse interessarsi lui al nostro paese, e poi questa ipotesi non si è potuta realizzare e quindi sono diventato io il dinosauro che deve battersi contro gli altri in nome della libertà, della giustizia e della democrazia. Questo da Canale Italia, che ringraziamo di averci fornito questo prezioso audio. Poi esprime anche un concetto: ancora qui a combattere. Aspettate però, Segnalato intanto il busto di Almirante al Quirinale. Ma non faccio sento il cretino, Quirinale. Non faccio il cretino. Oh, io arrivano cose, io segnalo. Perché prendevo poi così tanti taxi? Perché così, non guidando io, potevo leggere e studiare per prepararmi all'attività del Consiglio. Risponda, onorevole Gianmario, vogliamo semplicemente chiederle. Risponda al telefono, così ci aveva promesso. Lei è un uomo che mantiene le promesse, no? Onorevole Gianmario, consigliere regionale di Lombardia, vogliamo semplicemente che lei chiarisca queste cose qua. È vero, non è vero, per esempio, che ha speso 90 euro di gelati offrendoli ai bagnanti perché erano lombardi in Liguria? Lei dice di no. Benissimo, ce lo dica. Siamo qui. Qual è il problema? Si è messo paura? Qual è il problema? Lei poi è montiano, no? Ha aderito a questo gruppo, nuovo gruppo uscendo dal PDL, Pro Monti. Vuole dimostrare di essere una persona seria o un cialtrone come gli altri? Ma tu l'hai sentito oggi pomeriggio? Lasciamo perdere. Sergio dalla provincia di Milano, su. Cioè, ti ha detto che sarebbe intervenuto? Volevo parlare con Parenzo. Sì, Sergio, dica. Semplicemente chiedergli se lui ha degli impegni molto incombenti in questi orari in cui va in onda la Zanzara, che magari non è obbligato a parteciparvi. No, ma lo voglio io, questo è il punto, capito, Sergio? Ho capito, ma non si sente. Cioè, lui ogni giorno... No, si sente, si sente, su, oggi si sente. Si sente, dai, su. Dai, è una settimana che è un delirio. Vabbè, ma questo è perché mi arrabbio io, perché voglio una ricezione perfetta, perché sono molto pignolo da questo punto di vista. Comunque, insomma, oggi si sente. Ogni tanto non si sente, mi incazzo, ma siamo nella normalità, insomma. È che mi incazzo anch'io, perché... Cioè, vabbè, lei ha ragione ad arrabbiarsi. Alcune idee di Parenzo, tra l'altro, le condivido pure. No, ma lei ha ragione ad arrabbiarsi, ecco, fa benissimo. Fare queste critiche invece come? Si renda utile alla vigilia di Natale e contribuisca a ritrovare entro il 25 di dicembre il busto di Almirante. Ma non faccio il cretino, non faccio il cretino. Grazie Sergio. Emilia da Como, buonasera. Buonasera. Dica. Allora, io ho chiamato semplicemente per dire che secondo me lei ha una carenza di educazione nei confronti delle persone che le telefonano, gli tronca le telefonate. Probabilissimo, sì. Mi congeda senza salutare, che non mi sembra una gran bella cosa. Assolutamente sì, ma questa trasmissione qui non è un non si fanno dei corsi di bon ton, cioè non è una trasmissione. È un vero peccato perché pazienza, signora Emilia. Dovrebbe insegnarglielo la sua mamma da piccolo, invece. No, quello lei stia tranquilla, stia molto calma. L'ha insegnata e lei se l'è dimenticata. No, ma lì stia molto calma, cara Emilia. Sono due ambiti un io po' diversi. Sì, no, sì, sono calmissima. Sì, stia tranquilla e soprattutto non mette in mezzo mia madre. Non mette in mezzo mia madre. Sono due ambiti un po' diversi, non si preoccupi. Sono due ambiti molto diversi. Normalmente è quello che fanno le mamme. Lei mi ha detto che... Non mette in mezzo mia madre, abbia pazienza. Quanti anni ha lei, Emilia, scusi? 58, e lei? Benissimo, ma si faccia gli affari suoi. Io ho chiesto a lei. 46 comunque, ne ho 46. Anche io ho chiesto a lei. Ma qual è il problema, scusi? Qual è il problema di mettere in mezzo mia madre? Scusa, mi spieghi? È lei che mi ha detto che... Perché mette in mezzo mia madre? Di buona educazione. Sì, ma perché mette in mezzo... Io ho venuto con lei che in effetti non è una trasmissione di buona educazione. Normalmente la buona educazione si impara... Ho detto un'altra cosa. Ho detto che non si fanno dei corsi di bon ton. E poi comunque non c'è... È la stessa cosa. Io non le ho rimproverato di non avere il bon ton. Le ho rimproverato di non essere, secondo me, sufficientemente educato. Che è diverso. Sì, vabbè, pazienza. Non sarò educato. Comunque mia madre soprattutto non c'entra nulla. Su delle cose che non sono delle opinioni. Può darsi, mia madre non c'entra nulla. Dice che alla Fiat ci sono meno diritti di prima, è verificabile. Quando qualcuno dice che alla Fiat le retribuzioni sono più basse di prima, opinioni. Basta verificare se quest'anno guadagnano di più o di meno dell'anno scorso. Sono opinioni. A prescindere da quella che è ma la questo sua non opinione. C'entra, non c'entra non mi sembra comunque un buon motivo. Forse non avrebbero guadagnato nulla. E poi comunque non ho zittito l'opinione di nessuno, non la sto facendo parlare. Ma oramai non lo sapremo più. Ma chi ho zittito, scusi? Lei sta parlando, sta dicendo una cosa, non l'ho zittita, non le ho troncato la telefonata. Per cui me no, infatti. Per cui di cosa dice? Ma con tutti gli altri cosa? Ma di che parla? Parla di cose che non conosce, non sa. Come non conosco? L'ho sentita fino a un attimo fa. E allora ha un'opinione sbagliata. E lei zittisce gli ascoltatori. È ovvio che Ogni tanto succede, sì. Molto male, pazienza, spenga la radio. C'è solo un metodo, spegnere la radio. Cosimo da Bari. Cosimo, buonasera. Sì. Ascolta, io sono un operaio Ferrari. Sì. Però sono di Bari. Devi sapere una cosa. Io per colpa del tuo beneamato Marchionne mi devo fare 15 sabati obbligatori. Beh, lavora di più, meglio. È meglio, ma sai che significa questo? Meglio questo che rimanere senza lavoro, no? No, ma sai che significa questo? Sì. Che se io posso stare a casa il sabato, faccio venire qualcun altro a lavorare. Creo posti di lavoro, chiaro? Perché mi sa, io sento un camionista che qualche volta ti chiama e ti manda a quel paese, e c'ha ragione, perché tu non sai che significa lavorare, perché il beneamato Marchionne fa le macchine in Polonia, fa le macchine in Serbia. Certo, costa di meno. Vale la pena, questo è essere italiani. No, costa di meno, significa essere imprenditori, è una cosa un po' diversa. Non è da sì, perché secondo uno per rimanere in Italia si deve rovinare? No, vabbè, la burocrazia, il cuneo... Vabbè, di che parliamo, Cosimo? Di che vuole parlare? Non ho capito. No, voglio parlare del fatto che tu dici che Marchionne ha salvato l'Italia. Che cosa? No, lui che l'Italia, ho detto la Fiat, che l'Italia, la Fiat, su. La Fiat, allora, sin è vero, è un dato di fatto questo qua. Ha dato di fatto? La Fiat era praticamente fallita, l'ha salvata lui, punto. Sì, ti dico io che cosa fa quel vabbè, intanto, quel Marchionne. Intanto sentiamo la borsa, anzi no, prima Dario da Napoli. Che fa questo Marchionne? Mi dica, Cosimo. Allora fa questo, ti fa fare 15 sabati, sì, vabbè, ti manda in cassa, ti fa fare la scorta e poi ti manda in cassa. Che significa la scorta? A prendere soldi, la scorta dei motori. Ah, ecco. Ti manda in cassa e ti fa prendere i soldi dallo Stato. Benissimo. Questo fa Marchionne. Mettiamo Gerani sui Balcani che tengono lontane le zanzare. Norberto D'Alecco, buonasera, 800 24 00 24. Norberto, buonasera, sono Norberto. Buon anno, buon Natale. Dica. Il periodo è questo. Io ho sentito la notizia della commutazione della pena per Sallusti. Sì, 15.000 euro. Sono piuttosto indignato. E perché, scusi? Non perché ritengo che bisognava mandarlo in galera. Ah, ecco, allora? Ma perché io credo che 15.000 euro di multa per lui siano come per me pagare una multa per divieto di sosta. Ma chi l'ha detto questo? Ma che ne sa? Lei conosce il reddito di Sallusti, scusi? È presumibile, però al di là di quello. E come fa a dire che 15.000 euro, che 15.000 euro è troppo poco? Scusi. Scusi, il problema è che non gli avrei dato neanche 15.000 euro di multa io. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Non gli avrei proprio dato una multa, l'avrei. Sì. Escluso dalla possibilità di scrivere mai più su un giornale. Bravo Norberto, ma lei conosce quello che è accaduto in questa vicenda? Lei conosce la vicenda? E qual è la vicenda? No, tanto per capire, secondo me lei non sa nulla. La vicenda è che lui non ha fatto il suo dovere, doveva controllare sì. in quanto direttore sì. la veridicità di sì. quello che era stato scritto, sì. non l'ha controllato sì. e io quando non faccio il mio dovere vengo punito. Sì. Per di più, ma infatti è stato condannato, è stato condannato e punito, eh? È stato condannato. In primo grado a una multa, successivamente a 14 mesi di galera o 16 quelli che erano. Sì, ma il problema è che da un punto di vista concettuale sì, doveva essere radiato dall'ordine dei giornalisti. Bravo, che bravo. La galera per i reati di opinione è una sì. cosa inaccettabile, però per una persona che ha sempre fatto un certo tipo di giornalismo ed è recidivo nel non controllare le informazioni, sì. mi sembra che sia giusto fare pulizia nell'ordine dei giornalisti. Poi sì, c'è un pulizia, problema così, di tassa, pulizia, via, non lo facciamo però, più scrivere. Che fa, scusi, se non scrive? Sì, ma anche perché è un problema anche di etica. Se sarebbe quello, ne avrei anche per Marchionne. Sì. Adesso mischiamo Marchionne, Sallusti. Dire tutto, è corretto fare l'imprenditore ed esportarsi la produzione dove costa di meno, ma quando i soldi con cui le esporti sono i tuoi, quando i soldi con cui le esporti sono quelli delle cassa integrazione pagata da tutta l'Italia, forse non è sì. così corretto. Sì. Però scusa, sulla questione dei principi, in questo momento noi abbiamo il Napolitano che ha dato la grazia a Sallusti, ha commutato la pena in 15.000 euro. Sì. Un uomo che voleva andare in carcere perché Sallusti ha detto allora... vado in carcere, e dall'altra un uomo che è su un letto di ospedale che sta facendo lo sciopero della sete e della fame. Oddio, che ha rischiato no stai buono, che ha rischiato di morire, oh. che ha rischiato di morire per dei diritti, sì, per una dei cosa diritti. Che a te non piace, sì, per dei diritti, per un decreto che vabbè. Oggi non è stato per un decreto che ma che oggi quale decreto, ma che dici? Ma quale svuota carcere? Non era nemmeno in calendario, non dire stupidaggini. Ho sentito questa oggi mattina, stai zitto, stai appunto. Oggi è finita la legislatura. Mi mettete la musica, per favore, lo zittite un attimo, mettetemi la musica, per favore. Alessandra Mussolini è con noi, buonasera. Ma anche oggi mi mettete questa canzone che è la giornata dei Maio, io non lo so. Ma come, mica crederà a questa cosa dei Maio, onorevole Mussolini? Ieri ero un po' in ansia. Ma veramente eri in ansia ieri? Sì, veramente, per l'allineamento dei pianeti. Ma no, ma non ci credo che lei è scaramantica. Sì, su. Sì, sì, cioè, lei... ma io sono napoletana, sono superstiziosa. Cioè lei crede a tutte queste... Ho cominciato col corno, col cornetto, uno gliel'ho regalato pure al presidente Berlusconi. Ah, per i Maia, gli ha regalato un cornetto a Berlusconi? No, per tutto. Per tutto, e Berlusconi che ci ha fatto questo corno? Per la campagna elettorale. Ah, sempre bene, il corno va regalato e non comprato. E dunque lo userà in campagna elettorale sto corno, Berlusconi? Ma che ne so? Comunque l'abbiamo regalato. Se lo porta dietro, no? Che mi volete dire? Senta, ma oggi che... la Mussolini bellissima. Oggi l'hai vista? Transatlantico. L'hai vista? Era bellissima. Era bellissima. Vabbè, questa, ci siamo questa... anche baciati sul tappeto. Beh, adesso sì, baciati. Vero, cioè, salutati. Insomma. No, baciati davanti a tutti. E c'erano tutti i deputati, c'era Cicchito che è passato invidiosissimo. Ma quando mai? Ma non ci credo. Sì, perché la Mussolini e Cicchito non lo bacia mai. Vabbè, no. Beh, però devo dire che Parenzo è bruttino, onorevole Mussolini, mi dica la verità. No, beh, non è vero assolutamente. Ah, non è brutto. Bravo. Parenzo? È un gran tipo. Wow, un gran tipo, su Parenzo, una cosa capito? Non si è mai vista. Senta, ma la Russa vuole candidare... Lui è la Russa, scusatemi, posso dire una parolina? Sì, dica. Allora, mi ha molto deluso questa cosa, perché è possibile chiamare Fratelli d'Italia le sorelle? Allora io li ho ribattezzati sorelle bandiera, infatti più in là, vai a spingere Grosetto, voglio vedere se ci riescono. Com'è che faceva, fatti più in là? Vi ricordate? E sono in tre, non ce la fanno, non è possibile, sono troppi. Le sorelle bandiera, perché non le piace? Le sorelle bandiera. Perché non le piace a Fratelli d'Italia? Grosetto e la Russa. Perché ma perché non? Perché uno vuole fare una cosa, la fa da sola. Prendi il coraggio e fai, no? Che t'appoggi, che t'appoggi. E vabbè, poi che cos'è, qual è la cosa nuova? Beh, poi i fratelli e le sorelle, le donne, dove stanno? Vabbè, quella è Fratelli d'Italia, perché la canzone è Fratelli d'Italia. Fratelli e sorelle, che c'entra? Vabbè, ma perché a lei non le piace perché c'è la Meloni innanzitutto, primo, certo. In primis. No, sì. No, perché uno deve fare una cosa, la fa veramente innovativa, ma non così, che c'entra? Ma non così, c'entra come? Beh, sembra una cosa. Simbolo nel simbolo, il simbolo che sembra di nuova alleanza nazionale, che poi vi svelo una cosa, sì, è sì. Lo stesso simbolo di Scilipoti, quindi adesso si faranno la guerra. Ah, sembra uguale a Scilipoti. No, è uguale. È vabbè, identico. È uguale, lo sfondo è uguale. Cioè, non è che... quello è uguale, quando lo vedi, vedi quello, vedi quell'altro, non c'è differenza. Comunque, vabbè, ma io non ho capito, perché non le piace? Ma non le manca un po' a N? Fatti più in là. Fatti più in là. Vi ricordate? E come no? Così. Sì. Sembrano fratelli, sembrano là, come si chiamano? Le sorelle bandiera. Sorelle bandiera. Sì, vabbè, le sorelle bandiera. Vabbè, però scusi, lei con la Russa che rapporti ha? Ma io ho buoni con tutti. Perché io non ci va pure lei? Perché non ci va pure lei? Ma vacci tu. No, io per carità, Fratelli d'Italia. Ma io ho scelto. Cioè? Io sto con Berlusconi, qualsiasi cosa faccia, un carciofo, non so, qualsiasi simbolo, qualsiasi cosa. Io ho fatto la mia scelta, appunto. Anche se va con Monti, anche se va con Monti. Trovo difficile. Ormai trovo è difficile. E posso dire una cosa su Monti, ve la devo che dire, oggi si è dimesso. Oggi è l'ultimo giorno, sì. Si è dimesso, è andato da Napolitano, è durato pochissimo il colloquio, quindi anche Napolitano c'ha il dente avvelenato con Monti. Allora, quello che voglio dire, è possibile che lui ha preso in giro non solo gli italiani, ma soprattutto tutto il Parlamento, Camera e Senato, dicendo io sono tecnico, non mi candido, odio la politica. Ma è acqua passata, acqua passata. Ma che acqua passata? Ma come, lui aveva una maggioranza proprio perché era tecnico, tutti tecnici. Oggi la Fornero in aula, quando stavano parlando delle persone, si è messa le mani sulle orecchie e se n'è andata. Si è messo le mani, ma come si permette? Ma come si permette? Sono contenta che si sia dimesso Monti. Vabbè, quello non c'era dubbio. Lei oggi, per lei oggi è un giorno di festa. C'è stato un crollo, non è festa, per me sì, sono contenta. E c'è stato un crollo dei consumi per primo, il 17 dicembre ci ha stroncato. Ma questa Fornero, quando si è messa le mani nelle orecchie? C'è stato un macello in aula, io c'ero. Lei ma è brutto, ma tu devi rispettare. Ma il fatto che Monti abbia detto io sono tecnico, la mia è una parentesi voluta da che si sta mangiando le mani. Uno ci può anche ripensare, onorevole Mussolini. No, no, ci... no. Perché no? È uno poco serio. No, ma che ci ripensa? Che uno si candida, fa tutto questo spot di un anno, va da Marchionne, fa di qua, fa di là, lo hanno a parte che non è ancora detto che si candidi, non è ancora detto. Uguale, si candida o non si candida, già sta facendo delle cose incredibili. Comunque ha sentito che Brunetta, sentito no? Giarda. Che è Giarda? Ha detto Giarda. Giarda è simpatico, Giarda ha fatto una cosa carissima, che ha fatto? In una prossima vita. Esatto, la battuta meravigliosa. Ci vediamo in una prossima. Brunetta ha detto che non riesce a pagare l'IMU, anche lei ha problemi? Ma l'IMU l'abbiamo pagato tutti, che dobbiamo fare? Brunetta dice che ha avuto problemi perché c'è un sacco di. Ma hanno avuto problemi tutti gli italiani. Ma anche lei? Adesso dicono c'è stata una riduzione dei consumi, lo credo, hanno prosciugato, c'è stata una pompa idrovora. Ecco. Ma scusa, lei, anche lei ha avuto problemi, no? Ma tutti hanno avuto problemi. Vabbè, ma lei certo. Insomma, è una persona che non è che ha problemi con tutti hanno problemi perché ha cancellato la classe media. Tutti hanno problemi relativi al loro reddito, che c'entra tutti. E dipende quante case hai. No, non c'entra. Guardi che quando si prendono le case, anche una seconda casa, che uno lo fa per i figli, le tasse le paghi profumatamente, perché c'è la rendita catastale e tu per la seconda casa moltiplichi per 126. Vedete un po' la botta che viene, poi paghi il notaio, poi paghi l'agenzia immobiliare. Poi arriva a questa casa e praticamente con l'IMU è come se tu, e poi fai il mutuo, fai il mutuo. Quindi quando sì, ma non è che tutti i problemi sono colpa di Monti, su. Sì, la colpa è di Monti. Il proprietario è la banca, non è quello che ha l'immobile, perché se tu non paghi una rata, la casa te la tolgono. La dovrebbe pagare la banca il mutuo quando sei. Fatti più in là. Fatti più in là. È la verità. Però l'hanno soprannominati anche meno il male che, meno male che Monti si è fatto più in là, va. Però l'hanno soprannominato il gigante alla bambina, Crosetto e Meloni, anche dal punto di vista così, no? Dell'immagine. Va bene, sono originali. Diciamo, sono originali. Ma perché lei ce l'ha tanto con la signora Meloni? Che le ha fatto, no, signora Meloni? No, non ce l'ho assolutamente. Beh, insomma, no, come però no? Sto dicendo anche un'altra cosa. Quando uno vuole è una furbetta, fare la rivoluzionaria, quando uno vuole fare la rivoluzionaria, poi che cosa fa? Si mette con la russa, si mette con Crosetto, fa il simbolo che ricorda l'Alleanza Nazionale e poi si appoggia al PDL. Ma come? Berlusconi non andava bene né con Monti né con Berlusconi, mo t'appoggi e non t'appoggiare. Cioè, dice, Berlusconi non va bene, allora non, perché ti appoggi? Che significa? Ah, andassero da soli, dice, andassero da soli. Ma scusatemi, no, quello che dico io, lei ha fatto, lei con Crosetto, una manifestazione dicendo né con Monti né con Berlusconi, è giusto? Quello che dico sì, io? Più o meno sì, no, così ha detto. Allora che sì ha detto così. Insomma, allora non volevano fare le primarie, volevano fare le primarie e certamente non vedevano di buon occhio una ricandidatura di Berlusconi, su questo non c'è dubbio. Adesso però l'appoggio di Berlusconi lo vogliono. Adesso vogliono andare insieme al PDL. No, no, preferirebbero senza Berlusconi candidato premier. No, hanno detto a Monti, se Berlusconi appoggia Monti, niente Berlusconi, questo hanno detto loro. La stessa cosa che dice lei, onorevole Mussolini, è uguale. No, perché loro adesso si appoggiano giustamente al presidente Berlusconi, quindi insomma. Ma Berlusconi alla fine che perché fa? Berlusconi c'ha il grano, c'ha i soldi per fare la campagna. Berlusconi alla fine che fa? Berlusconi ha fatto questa l'uscita di questa conferenza stampa e ha detto quello del libro di Vespa. Vabbè, ma sono successe tante cose da quel momento in poi. Vabbè, ma lui aveva detto, dice, ma Monti non mi ha fatto neanche una telefonata. Esatto. Perché Monti è settario, questa è la verità. È Monti settario. Ma non lo vuole Berlusconi, Monti. Monti non vuole l'appoggio di Berlusconi. La cosa bella è che non vogliono candidare Fini. Scusatevi, ma questa è una notizia eccezionale, è bellissimo. Perché non la commentate? Ma come no? La vogliamo far commentare? Nessuno vuole candidare Fini, nessuno. No? Nessuno! Nessuno, Montezemolo non lo vuole. Niente, nessuno. Olivero delle Agri, come mai nessuno vuole candidare Fini? Beh, un motivo ci sarà. C'ha la rogna, lui che c'ha? Appena arriva tradisce. Cioè lui parte che tradisce, già ha il pensiero del traditore, alla fine non puoi. Cioè lui ha tradito tutto, ha spaccato una destra, l'ha frantumata, l'ha distrutta. Ma al di là di questo, per ma cosa? Adesso tanto si può dire, tanto è un commento al margine della. Cioè lui poteva avere, se avesse fatto il presidente della Camera con calma, tranquillino, discretamente, dopo che aveva avuto quella fortuna di diventare presidente della Camera, un'autostrada adesso col PDL. Tanto ha fatto, tanto ha detto che adesso non lo vogliono neanche mettere in lista. Ma alla fine ce la farà, vedrà, alla fine ce la farà. Per il rotto della cuffia. Beh, può darsi, vabbè. Però può darsi. Ma è una cosa fallimentare. Casini lo salverà alla fine, Casini gli darà una mano, no? Ma chi lo dice? Può essere, ricordiamoci. Ma lei che fa? Si candida, onorevole Mussolini, si candida lei? Certo. Sentite, allora, io lo spero di... Pure lei è una vita che sta in Parlamento, siamo è vent'anni che sta in Parlamento. Però scusatemi, non dite quello che è successo proprio a novembre, a margine della chiusura abbiamo approvato, io sono stata relatrice di una legge che finalmente ha cambiato il diritto di famiglia, ha dato ma nessuno dice nulla, però lei dopo vent'anni ancora si vuole ricandidare, pure lei dopo quasi vent'anni, è entrata in Parlamento quando lei? 94, quando è entrata in Parlamento? Nel 2008. dopo. No, ma che? Ma pure prima c'era, che dice? Sì, dai, veramente, ci vuole sempre un Mussolini in Parlamento. Me lo dica, me lo dica, ci vuole... Io purtroppo non è possibile, non... Questa è una cosa alla quale tengo molto. Pensate quello che successe. Quando fui eletta per la prima volta, mi misero un altro cognome. Io dissi, voi state scherzando, cioè non potete neanche mettere Mussolini come cognome. Ma veramente? Ho detto, io non mi siedo se non cambiate il nome. Ma veramente è così? Sono Mussolini. Pensa, manco lo potevano mettere. Ma chi è che si opponeva? Ah, non lo so, avevano già fatto i nomi col mio cambiato. Cioè, volevano il nome di suo marito? Sì. Una roba da pazzi. Io ho detto, ma guardate, io mi chiamo Alessandra Mussolini, non altro. Mi dispiace, lo cambiate, se no io mi siedo. C'era Scalfaro! Mamma mia. Cose incredibili, cose incredibili. Ah, quindi possiamo dire tranquillamente, ci vuole sempre un Mussolini in Parlamento. Questo ma si può dire tranquillamente. Sì, la cosa è carina, vero? Sì, ci vuole sempre un Mussolini in Parlamento. Sì. Questo potrebbe essere un'idea per una campagna elettorale, signor Mussolini. Cioè, ci vuole sempre. Lei comunque ha quel contratto firmato. Ci vuole sempre. Lei ha quel contrattino firmato come De Gregorio, quel contrattino con Berlusconi, mi sembra, Quale? Lei non ha una specie di contrattino firmato come De Gregorio là con Berlusconi, no? Ma che quello fu una cosa. Ma quello fu quando abbiamo fatto il PDL, che i piccoli si sono alleati. Vabbè, ma insomma, Berlusconi le non credo, uno fa politica, No, però lei c'ha questo contrattino e potrebbe far valere a Berlusconi, amico mio. Ma che contrattino? Vabbè, no, una specie. In politica è così, è aleatorio. Oggi comunque Berlusconi si è arrabbiato perché Monti non l'ha chiamato, nemmeno per dirgli... No, Berlusconi voleva una risposta che non è arrivata. Non è arrivata. Monti, perché Monti poteva fare una telefonata, no? Fa sempre saltare la mosca al naso, perché Monti non si può toccare, ma Monti non si può fare una critica, lui è sempre sopra tutti. Ma se lei lo incontra per strada? Ha ingannato tutti. Se lei lo incontra per strada, che fa Monti? Se lei lo incrocia? Ma io non l'ho mai salutato, mai! Mai salutato? Io non l'ho mai salutato, non mi sono mai avvicinata né a Monti né alla Fornero, perché io quando ho gli atteggiamenti di antipatia a pelle, sotto sotto c'è sempre qualcosa. Niente. Niente, non gli ho mai dato la fiducia, non l'ho mai salutato. Beh, addirittura il saluto però... Ma perché lo devo salutare? Ma perché lo devo salutare? Riccardi sì, invece Riccardi è simpatico, Riccardi sì. Com'era la canzone? Se telefonando. Se telefonando io potessi dirti addio. Almeno poteva fare una telefonata. Che bella questa canzone. Che pensate che l'ha scritta Maurizio Costanzo? Ma scusi un attimo, ma poteva fare almeno una telefonata a Monti? È proprio un maleducato a Berlusconi, no? Ma Monti. Una telefonata per dire, non sono. Monti è supponente. Ma adesso c'ha contro pure Napolitano, finalmente. Ci poteva pensare prima. Senta, però, qui bisogna commentare una cosa, Mussolini. Berlusconi, che. Insomma, Berlusconi. Guardate che Berlusconi si è messo la... per radio, sì. Sta aumentando i consensi, ha già recuperato. Vabbè, poi finisce però a un certo punto, c'è la par condicio. E chi l'ha detto? E quando finisce? Finisce. Se ne vuole. Scusi un attimo, ma qui la cosa si fa grossa. Berlusconi si è messo con una ragazza di 50 anni più giovane. Lei che dice? Beh. Che voi siete invidiosi, questo dico. Lei dice no. Però un po', Mussolini, è un po' esagerato, no? Ma perché? Ma è una bella coppia, li vede come una bella coppia lei? Ma io li vedo come una coppia serena, io sono contenta di questo, perché se una persona è serena rende sereni anche gli altri. Serena? Ho capito, ma verosimilmente. Poi napoletana, come lei. È una napoletana, posso mai dire qualche cosa? E che ne so, però sa, 50 anni viene il sospetto, no? Viene il sospetto. E telefonando, dai che vi piacerebbe pure a voi. Vabbè, ragazzi, detto questo, sono felice che Monti non ci sia più. Quanto è felice? Quanto è da morire? Che fa stasera? Stappa la bottiglia? Stasera brindo, che io non bevo, sono astemia, ma brindo con birra e Sprite. Birra e Sprite, la Sprite di Panaché. Sì. Ma la Pascale, lei l'ha mai conosciuta? L'ha portata? Come? La Pascale, l'ha portata al compleanno suo l'altro giorno, l'ha conosciuta lei la Pascale? Ma la Pascale io l'ho conosciuta, è una persona carinissima, vuole bene al presidente e questo mi basta. Ma lo consiglia? Non dobbiamo parlare delle cose personali. Ma lo consiglia anche? Lo consiglia? Non lo so assolutamente. Va bene, allora detto questo, ma che speranza ha di stare con Berlusconi a lunghissimo? Cioè, mamma mia, su che vi piacerebbe pure a voi. Ma non c'entra. Ma lei allora, ha 27 anni, cari avuti. Aspetti un attimo, vuole sapere una cosa, Parenzo, dimmi. Io voglio sapere semplicemente questo, cara Alessandra, voglio dirti questo, cioè, la signora Pascale ha 27 anni, Berlusconi 75, vivrà 76. Almeno fino a 150, 76, sì. Vivrà almeno fino a 100 anni e il catetere lo metterà a 150, ma una di 27 anni, poi? No, io non lo metto, ma e allora perché lo deve mettere Berlusconi? Quanto no, spiega? Ma voglio dire che spera una di 27 anni, anche tra 10 anni, che ci fa con Berlusconi? Ma cosa ve ne importa? Cosa ve ne importa? L'amore è libero, i rapporti devono essere tranquilli, uno non deve andare a fare il limite questo sì, questo no, che volete essere non so, illiberali pure no, per carità, allora che ve ne importa, a lui gli piace così, a lei gli piace così, punto e basta. Arrivederci e buon Natale. Senta, ma i Marò? Ah, i Marò io li avrei candidati nella lista PDL. Nella lista PDL. Così non li facciamo più andare in India. Ma pure la Russa. È terribile che devono ritornare. Ma pure la Russa li vuole candidare adesso. Allora fatti più in là. Vedi che tutti. Tutti vedi. Vogliono allora, candidare. Detto, ma scusi, Meloni, ma la Russa. Ma l'India, ma come la prende? Adesso non ce li. Ma l'India già si è beccato 800.000 euro l'India. Sì. L'India. Ecco, sì. Io comincerei a dire, fate le persone serie, perché loro sono i nostri soldati. Io non li farei più ritornare, la verità. Questo è È così, non dovrebbero più tornare. Ma no, ma se devono ritornare? Se scoppia una crisi diplomatica, un casino, una crisi internazionale. Se sono candidati in una lista, qualsiasi lista sia, devono fare la campagna elettorale. Cioè, candidarli sicuri però, in modo che entrano in Parlamento? Certo. Candidarli col PDL, dio questo suggerimento a Berlusconi, dovrebbe fare la grande campagna elettorale accanto ai due Marò, portarli in giro per tutta l'Italia, me lo dica. Ma no, io credo che sia un modo anche per far sì che l'India capisca. Ma è una buffonata, che non è che possono tirare così tanto la corda. No, ho capito, ma è una buffonata. Se uno candidarli e non far ritornare. Le liste servono anche a questo, perché si possono candidare i magistrati in groia. In groia si è candidato, dopo sì. Dopo che ha fatto che il ha fatto. Magistrato fino a ieri, scende in campo e non si possono candidare due nostri soldati. Ma qual è il motivo? No? Comunque dice che c'è. Non sono cittadini italiani? Sì, ma dicono che ci sia. Allora, ci è un modo per non farli più ritornare in India. Ho capito, ma pare ci sia un accordo. In India a fare le sceneggiate con gli indiani, perché gli indiani stanno facendo una sceneggiata con i nostri soldati. Va bene, grazie, buona serata, grazie. Ciao, grazie. Ascolti. Fatti più in là. Così vicino mi fa turbare. Fatti più in là. Come si chiama il nuovo movimento di La Russa? Sorelle d'Italia, sorelle bandiera. Grazie, a presto. Salute. Fabrizio da Milano, buonasera. Ciao, buonasera. Vada. Allora io praticamente sono. Che c'è? Che è successo, Parenzo? Che è successo? Il razzismo è il più vasto e coraggioso riconoscimento di sé che l'Italia abbia mai tentato. Parola di Giorgio Almirante. Glielo dico che se lo vedo gli do una bastonata in testa a questo. Fabrizio io. Da Milano, buonasera. Sì, ma questo. Ciao, buonasera, Almirante. Sì, sì, ho capito. Volevo solamente. Come si dice, come dire? Che ne so, se non lo sa lei. No, rispetto all'ascoltatrice di prima, che praticamente tu manchi un po' di. Ti posso dare del tutto? No, no, mi deve dare del lei. Lei è un po' maleducato, capito? Cioè, sì. Praticamente perché? Senta. C'ha ragione la signora di prima. Va bene, Luciano da Roma. Luciano da Roma, buonasera. Pronto, buonasera. Dica. Volevo dire che Pannella per me può anche schiattare sul giro, pur se magari ha sempre. Stia tranquillo, stia tranquillo. Battaglie meritorie. Perché può schiattare? Ma per la battaglia inutile, perché sta facendo. Se magari avesse fatto la stessa battaglia per i pensionati, che magari con 500 euro al mese. Vabbè, questo non c'entra, non è che è meglio una battaglia o meglio un'altra battaglia. No, no, certo, devono andare a rovistare nei cassonetti. Ma cosa c'entra? Non c'entra nulla. Ma non c'entra nulla. Magari avrebbe avuto un appoggio in più, poi mi sembra quantomeno fuori luogo per Parenzo di sta battuta che non serve a niente, che hanno rubato il bronzo di busto, di, il, di, busto. Il busto di Almirante, busto. Voglio dire, sì. è deprecabile. Lo stessa cosa magari l'avrebbero potuto fare per Stalin, no? Ma cosa è deprecabile? È deprecabile che uno abbia scritto che il razzismo è il più vasto e coraggioso riconoscimento di sé che l'Italia abbia mai tentato? L'elogio del razzismo è deprecabile, non il busto! Posso dire che me ne fotto? Posso dirlo o no? Che me ne frego, certo, del busto, posso? Me ne frego di quanto vali, se mai ce ne fosse bisogno. Se ne frega del busto, se ne frega del trafugamento del busto di Almirante. Ma posso dirlo, lo puoi dire. Basta che non urli al telefono, perché se urli al telefono tu con il telefonino non si sente nulla. Abbiamola. Poi mi dispiace. Porca la puttana, è andata a fanculo! Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana io sono stanco. In napoletano a TV Giulì Berlusconi è ovunque, ormai non si riesce più a distinguere dove dice una cosa e dove ne dice un'altra, è ovunque. Domenica va da Giletti, ne dice di tutti i colori. Casini è uguale a Bersani, la par condicio che scatta solo il 24, parla in napoletano a TV Giulì, un mezzo napoletano, sentiamo. Lei sta anche monopolizzando troppo l'attenzione per, sulle televisioni italiane. Come mai? Cosa risponde ai suoi competitor politici? La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis. Et je suis potrebbe essere questa come un'altra, eh. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Che sarà ma vie? Sono tutte canzoni di Becò, è uno dei preferiti di Berlusconi. Questo è Berlusconi, signori. Speriamo che ci accompagni per l'eternità, per tutta la campagna elettorale. 800 24 00 24 e peccato che a un certo punto interviene la par condicio. Peccato, dico io, peccato, altrimenti ne avremmo viste delle belle. Dimmi. No, dico, sai, a proposito di tutti questi che si arrabbiano perché questa cosa di Almirante, cosa cantavano negli anni 20 lui e i suoi amici di Almirante, lo sai, sì, o no? Vabbè, era fascista, sai, no? Era fascista, beh, allora. Senza mai rivendicare. Ma capito, ma erano fascisti tanti italiani, ma qual è il problema? Ce ne freghiamo della galera, camicia. Ma no, negli anni 20 questo qua, quello dopo. Se non trionfa sarà un macello col manganello e le bombe a man. Ma non faccio il cretino, non faccio il cretino. Cosimo da Ferrara, Cosimo da Ferrara. Negli anni 70 i reduci di quella roba cantavano questo. Bene, Cosimo da Ferrara, hai detto le tue stronzate, dai. Bene, niente, bene. Cosimo da Ferrara, abbi rispetto per i morti, Cosimo da Ferrara. Buonasera, buonasera. Vada. Ma critico, scelte politiche della persona. La mia è una semplice telefonata di cortesia, la rivolta all'onorevole Mussolini. Semplicemente volevo ricordarle che negli ultimi 20 anni... Il signor Monti non ha governato questo paese e quindi mi pare un po' impossibile che sia riuscito a distruggere, insomma, e ad azzerare la classe intermedia, la classe media italiana, insomma. Semplicemente questo. Per evitare, insomma, ci sono persone che attribuiscono tutte le responsabilità di questo mondo, dei mali dell'Italia a Monti in quest'anno. La cosa mi fa un po'. Francamente mi fa un po' ridere, le dico solo questo, mi fa un po' ridere, ha capito? Mi fa un po' ridere. Mi fa un po' ridere, per carità, poi ovviamente in quest'anno magari sono stati commessi degli errori, eccetera, eccetera, però insomma attribuire tutte le responsabilità dei disastri dell'Italia, poi piove governo ladro è sempre un'indicazione. Agli ultimi 13 mesi, veramente molto molto infantile. Mi sembra una cosa assurda. Detto questo, l'Italia ha problemi cronici, il governo probabilmente, secondo me, ha fatto benissimo a fare la riforma delle pensioni, dalla riforma delle pensioni in poi, insomma, il voto è per me, almeno per quello che mi riguarda, largamente insufficiente. Nicola da Brindisi, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Io, io intervengo senza voler fare polemica, anche se ne avrei tanta voglia, atteso che... No, lei deve fare sempre polemica, perché ma non dovrebbe fare polemica? Ma non vale la pena, perché con lei è anche divertente, è una persona intelligente e la polemica è interessante anche farla. Ma con Parenzo mi pare che sia tempo perso, le spiego perché. Sulla questione Almirante parlo da esponente di un partito della destra che ha fatto sempre riferimento a quella che è stata la storia di Giorgio Almirante, non solo io ovviamente, ma milioni di italiani. Beh, la si può pensare, la si può pensare anche in modo diverso rispetto a... Ma può criticare, no? Vede, io non voglio fare polemica... Però qual è il punto, lei dice, infierire sul fatto del trafugamento del busto? Assolutamente sì, e soprattutto mancare di rispetto a donna Assunta Almirante, che credo meriti tutt'altro. Parenzo non ho mancato di rispetto a nessuno, perché sicuramente avrà altre idee. Vedo che è molto acculturato sulla storia del ventennio fascista e questo fa molto piacere, perché fa parte comunque della storia di questo paese. Ma non c'è dubbio, storia tragica. Giorgio Almirante ha fatto la storia di questo paese, che piaccia o no, come l'hanno fatta tanti altri. Ma infatti, ma si potrà criticare, no? Ho avuto lo stesso rispetto nei confronti anche di altre forze politiche diametralmente opposte, se avessero ma per esempio trafugato... rispetto. Ma no, ma lei farebbe c'entra la Parenzo, critica politica a un uomo che ha avuto un ruolo pubblico. Ma figuriamoci sulla persona in sé, nulla questio. Ma certamente, vede Parenzo, lei quando apre i microfoni entra nelle case, nelle auto degli italiani, ed è una cosa bellissima, è giusto, ci mancherebbe altro. Ecco, e non si è mai, chiesto... Ha il diritto, ci mancherebbe altro. Di ma criticare anche... la figura pubblica di Almirante ma e la sua storia passata. C'ho il diritto o no? O farebbe mi vuole menare? Anche, farebbe mi bene mandi anche... la squadraccia sotto casa? Ma lei farebbe mi bene mandi anche... le squadre no, sotto? Ma al di là, guardi, al di là di queste battute di folklore che non fanno più presa, e chi lo fa, commette anche, e chi lo fa commette anche un reato grave, perché io non condivido assolutamente le violenze in questa circostanza. Ma, né tanto ieri, meno alla radio, ieri alla radio un signore ha telefonato dicendo se io la vedo per strada la meno. Ma sì, per carità. Va bene, ma lei deve anche capire, Parenzo, che dietro la figura di Giorgio Almirante, dietro io quella non capisco storia, niente. Io critico tanta, la figura pubblica. Ha sofferto realmente, come anche dall'altra parte. Io ho anche grande rispetto, ma probabilmente, per ma il Partito Comunista. Il ma lei non parla, ma lei non parla persona. Mai di giudizio politico del comunismo. Non ha mai parlato ma di questo. Ma come no? Ma se lei me lo chiede, certo che do un giudizio politico sulla va allora, bene, grazie Nicola. Narno da Bergamo, non è l'Istituto Luce questo qua, cioè non è Rai Storia, insomma. Narno da Bergamo. Buonasera, buonasera. Tica. Due cose ha detto l'onorevole Mussolini che fanno accapponare la pelle, non se ne può più. Una, questa cosa che la banca è proprietaria della casa, quindi dovrebbe pagare l'IMU, è una stupidaggine colossale. Quando io vado dal notaio faccio il rogito, che è l'atto di proprietà della mia casa. Vabbè, ma lei sta ancora a seguire queste cose? Come? Lei sta ancora a seguire no, queste no, cose? No, no, è importante, perché queste cose le dicono molto raramente nei blog la gente che non sa le cose, e io devo pagare un parlamentare 10.000 euro al mese che è ignorante quanto me. Ma siamo matti, io lo pago per essere più intelligente di me. No, ma il ragionamento era un altro, il ragionamento era un altro. No, non è un ragionamento, il ragionamento è quello dei figli, che è ancora peggio, perché finché c'era l'ICI e la casa si la casa intestata ai parenti non pagava l'ICI o lo pagava in misura ridotta, era pieno di case intestate ai parenti in Italia, perché siamo in Italia. Sì, sì, e quindi no. Ha fatto bene Monti a mettere l'IMU prima casa, seconda casa a chi se la intesta e la fa abitare i parenti. Ha fatto stra bene, se no era pieno di parenti bisognosi in Italia. Ecco. Va bene, grazie, grazie. È con noi Antonio Di Pietro, buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori. Come va, Parenzo? Di Pietro. Fa freddo. Senta un po', ma... Una volta si diceva piove, governo ladro. Senta, ma oggi lei che è stato un fiero oppositore di Monti, sì, qua praticamente da subito, no? Oggi che giornata è per lei quella delle dimissioni di Monti? Ma veramente il mio problema in questo momento è capire cosa succederà al paese domani. E questo d'accordo, però... Questo è il primo problema. Monti, io credo che io ho fatto opposizione, l'ho fatto nel merito, perché ritengo che egli abbia adottato una serie di provvedimenti che abbia creato maggiore divaricazione sociale. Sì. Tra pochi che stanno più bene, molti che stanno peggio. Ma è appunto per questo. Davvero oggi è una giornata di festa per lei, o no? Ma è una giornata di festa, non è che scoprire che avevo ragione un anno Natale fa, anticipato. Scoprire che avevo ragione un anno fa non è una buona. Non è che si sta bene, cioè scoprire, averlo scoperto prima che c'era un problema, sì. Il problema resta. Che cosa succede adesso? A proposito di cosa succede adesso, leggo che Ingroia avrebbe accettato, comunque sicuramente si candida, poi adesso lei ci spiegherà se si candida come premier di che cosa, però ha anche invitato lei, Ferrero, Di Liberto a fare un passo indietro, cioè a non candidarsi per dare spazio alla società civile, vero o no? Ha già smentito, perché come al solito, poi chi è che viene, parla per la prima volta, non sa che bisogna stare attenti alle retrologie. Lui intendeva dire quel che anch'io intendo dire, e cioè vale a dire che mai come in questo momento le forze politiche, soprattutto quelle che si sono opposte al governo Monti, ed io sono l'unica forza politica in Parlamento che ha fatto 5 anni di opposizione, tutte e 5, prima a Berlusconi e poi a Berlusconi travestita da Monti. E in questo senso le forze politiche debbono mettersi in gioco, rinunciare al proprio simbolo e partecipare in una lista unitaria che mette al primo posto e innanzitutto la società civile. E dunque non vuole rottamarla, non la vuole rottamare. Lo ha smentito lui, lo smentisco io, e ci mancherebbe pure che dopo aver fatto 5 anni l'opposizione, adesso che si deve creare un'alternativa, sono io che ho fatto l'opposizione e mi metto da parte. Se mettesse da parte quelli che hanno rovinato il paese. Dunque lei si vede nel prossimo Parlamento, Antonio Di Pietro, sì? Si batterà con le unghie e con i denti per restare... Premesso che lo decideranno i cittadini, io mi candiderò e certamente intendo portare avanti proprio quei 10 punti su cui abbiamo costruito e scritto insieme in quel manifesto. Allora ci faccia capire, perché noi vogliamo essere chiari, appunto. Allora, Ingroia candidato premier, giusto? Ingroia ha dato la sua disponibilità. Tutta questa realtà che si sta muovendo si riconosce in lui come il candidato premier, ne sono più che felice. Benissimo, allora poi intorno... Mi rimetto, ovviamente, alla valutazione dell'insieme, se no comincia a dire che Di Pietro ci mette sopra. No, perché? Ma lui è sicuro di candidarsi premier Ingroia oppure no? Perché sa, anche lì sembrava Monti, mi candido, non mi candido, sorte antenna, pare Di Pietro. No, quello era un modo per dire metteteci la faccia anche voi, perché se ci metto la faccia da solo, poi non si va. Ormai ha deciso? Io credo che noi dobbiamo soltanto tutti coloro che dicono che bisogna metterci la faccia, cominciassero a mettercelo loro. Io trovo un sacco di professori del giorno dopo, uno di questi è Monti. Ci facciamo un caffè io e lei, che Monti ha visto che tutto sto telefilm che ha fatto, alla fine non si candida lui, fa candidare altri intorno a lui e poi se vincono ha vinto pure lui e si ripropone ancora per dire che bella figura di garanzia che sono. Io i vincitori del giorno dopo ne ho visto pure troppo. Cioè lei dice che non si candida alla fine? Lei dice che non si candida? Monti a mio avviso più che candidato lui fa in modo che attraverso il suo nome si realizzi un'area che poi fa... Cioè non si candida premier, candidato premier dice lei, no? Ma ormai il gioco è già fatto. C'è tutta un'area moderata che deve raggiungere l'8% al Senato, poi dopo le elezioni, come ha detto... Ma non è che si candida... D'Alema dice Bersani va a fare il Presidente del Consiglio e per me se facesse le politiche di centro-sinistra sarebbe anche bene e Monti va a fare Presidente della Repubblica. Scusi un attimo Di Pietro, ma non è che non si candida perché ha qualche scheletro nell'armadio pure Monti? Così è girata qualche voce, no? Cioè qualche scheletro... Mi hai preso impreparato. Io ho l'ultimo che ho saputo, ho sentito stamattina di Grilli, come si chiama coso lì? Grilli, quello è la casa. Ho sentito stamattina da parte di un vostro collega parlamentare. Non mi ricordo come si chiama. La storia della casa è una cosa un po' complicata, non chiara, non ha però questa cosa non lo so, ma io credo che io contesto le politiche di Monti, poi cosa faccio la sera, la mattina. Allora abbiamo la pubblicità, poi torniamo subito, perché voglio capire. Allora Ingroia candidato premier, dunque un simbolo unico alla Camera e al Senato, Di Pietro? Signor sì, che risposta veloce per la pubblicità. Mazza, che fa grandioso, simbolo unico, come si chiama? Gli arancioni, come lo chiamerebbe lei? No, Ingroia ci ha tenuto a ribadirlo oggi, sono d'accordo con lui che nessuno deve mettere il cappello sopra sulla società civile. E allora come si chiama? Lo dobbiamo decidere in queste ore, a sapere che io ancora non ancora abbiamo finito. Beh, lei un'idea ce l'avrà o no? Io ho visto, sì, certo che ce l'ho un'idea, ma se lo dico poi la brucio. Eccoci qui, io sono molto contento di avere questa sera l'onorevole Di Pietro, perché perché devo dire la verità, Parenzo, spesso non sono stato d'accordo con quello che ha detto Di Pietro, però quando una persona viene praticamente, come è successo nell'ultimo anno, negli ultimi mesi soprattutto, trattata dai suoi ex alleati e alleati anche oggi in moltissime giunte, in moltissime giunte della locali, regionali, provinciali e comunali, viene trattato da questi stessi alleati con cui ha fatto tutto e ha condiviso tutto fino all'altro giorno, poi c'è stato il problema Monti, Napolitano, quello che sappiamo, come una sorta di reietto, mi viene una sorta di simpatia spontanea nei confronti di questa persona. Bravo. Una simpatia spontanea, perché uno non può dire, insomma, adesso Di Pietro è diventato per Bersani, per il centrosinistra, una sorta di, no, di reietto totale, ma scusa, sei insieme in tante giunte, probabilmente sarai insieme anche in Lombardia o da altre parti, non lo so. Si presenterà in Lombardia. Lei si presenta in Lombardia come candidato, Di Pietro? Guarda, ha fatto bene a farmi questa domanda, perché io adesso parlo a Nuoro per far capire a suocera, quindi non se la prenda se rispondo in dipietresi. Il concetto è questo. Questi signori pretendono che l'Italia dei Valori possa stare con loro dove gli serve. Per esempio, in Molise, dove pure si vota, sì. Sono tre legislature che vince il centrodestra, Iorio. Questa legislatura può vincere il centrosinistra, ma senza l'Italia dei Valori dove vanno? Ho più voti io che loro. E allora, per l'amore di Dio, Ponti d'Oro... Ancora ce l'hai i voti là? Ancora ce l'hai i voti in Molise? Certo che ce l'hai i voti in Molise, ma a parte il concetto di fondo, è chiaro che in una situazione di questo genere, sì. al filo dove ce l'hanno, sì. per vincere o per perdere, stavolta sono necessari, e lì fanno finta di niente. In Lazio, piuttosto che in Lombardia... devono prima vedere se cosa fanno quelli del centrodestra. Se il centrodestra si divide, per esempio in Lombardia, se ne fottono, da una parte, se ne fottono, sì. Albertino va dall'altra, allora quindi Ambrosoli c'è la strada spianata, se ne fottono. Quindi come se ti prendo se mi servi, come usa e getta. Ecco, io la carcigenica non la faccio per nessuno, men che meno che per Bersani. E allora in Lombardia che succede? Allora in Lombardia succede che se c'è un accordo generale che prevede che vi sia un centrosinistra che nei programmi e nelle coalizioni sia unitario, bene, ma che se deve essere a macchia di leopardo, dove ti servo ti prendo, dove non mi servo ti getto, sì. E allora io vado, l'Italia dei Valori si presenterà comunque alle elezioni col proprio simbolo e si presenterà con lei candidato? Beh, in Lombardia io ho una storia da raccontare. Appunto, per questo ti dico. Sia nei confronti del centro-destra che del centro-sinistra. Dunque no, però mi dia un annuncio, Di Pietro, cioè qual è il punto? Lei si candida in Lombardia? Io, se centro-sinistra, se non raggiungiamo un accordo unitario... Ma nazionale o locale? Anche nazionale, sì. con il centro-sinistra, sì. io sto dicendo, in Lombardia l'Italia tra da sole non esclude la mia diretta candidatura. Le do già uno slogan, torna mani pulite. Beh, stupendo, no? Veramente non sei mai andato, perché mi pare... Se ne è mai andato, perché mi pare che lì appunto però torna mani pulite, cioè metto a posto io la situazione, bisogna mettere ordine in Lombardia, Di Pietro. Direi se potessi usare un termine che si usava ai tempi di QRPM, soltanto lì sono conosciuti gli uffici, quindi si fa prima. però sarebbe, in Lombardia potrebbe avere qualche sostegno, Di Pietro, magari, cioè come candidato. Vedremo. Comunque, adesso la domanda però è questa: il suo isolamento dell'ultimo periodo, che è evidente, no? Nel centro-sinistra, e anche i sondaggi non sono favorevoli, diciamola tutta, no? Cioè, anzi, insomma, sono molto sfavorevoli. Quanto ha pesato la Gabbanelli? Al 100%? No. No, ma la Gabbanelli intendo report in generale. Sì. Indubbiamente ha pesato, ma ne ha pesato molto di più la strumentalizzazione che se n'è fatta, ne ha pesata anche ammettiamo prima i nostri errori, ne ha pesato pure anche qualche cappellata che abbiamo trovato nel territorio, voglio dire in Lazio ce ne hanno arrestato uno, non è che dobbiamo nascondere. Detto questo, però però la cappellata l'ha fatta pure lei, Maruccio l'ha scelto lei. A quello mi sto riferendo. Quante cappellate ha fatto nell'ultimo? Io c'ho 10 dita in due mani, non mi avanza qualche dito. Quante cappellate hanno fatto gli altri? Voglio dire, io invece di stare a contare le cappellate l'una dell'altra, mi permetti invece di mandare un messaggio. Sì. Siccome io ho cercato a tutti i miei candidati, finora ho sempre detto, certo, i carichi pendenti ho certificato penale, perché almeno i delinquenti non li prendo. Sì. E invece, ho detto sempre, pure io, bisogna prendere giovani che non hanno mai fatto politica, rinnovamento, eccetera. Anche questo, quelli che mi hanno arrestato erano meno di 30 anni. Appunto. Non hanno mai fatto politica. Allora questa, ho deciso di fare una cosa di più, alle prossime elezioni. La famosa cosa, ho capito. Le pubblicazioni di nozze. Le pubblicazioni di nozze. Andate a vedere sul sito dell'Italia Valori, chiunque può indicare rispetto a quelli che sono indicati come candidati, sì, che ne pensa e darmi un avviso. Poi, se sei vicino di casa e questo lo conosci e vedi che è uno stupratore di bambini, dimmelo. Una sorta di delazione come per gli evasori fiscali. La pubblicazione, diciamo, di nozze l'hanno inventato Gesù Cristo. Scusi un attimo, ma questa storia contro di lei che sono uscite, io pure sono stato stupito che per tanti anni Report non ha fatto un servizio e poi all'improvviso ha fatto un servizio, si deve un'intera puntata sul servizio, su fatti che già erano ecco, ma non c'è stata una trappola nei suoi confronti, non c'è stata una trappola su fatti triti e ritriti, sì, d'accordo, già molti altri avevano, certo, intervenuto, addirittura già la magistratura aveva deciso, esatto, ma tu, c'è stato un dossieraggio nei suoi confronti, Parenzo, giusto, questa, una specie di dossieraggio nei suori confronti. Hanno fatto il problema di fondo è che si sono affidate a dei personaggi che hanno raccontato una storia. Ecco, ma chi c'è dietro? Chi c'è stato dietro questa cosa? Qualcuno ha spinto per consegnare dei documenti nuovi, eccetera? Una cosa orchestrata? No, guarda, io a prestare il film non ci vado. Niente. Tutto da soli hanno fatto quelli di Report, senza nessuna spinta. Hanno fatto informazione, poi dopodiché io la ritengo che non siano stati giusti nei miei confronti, ma hanno fatto informazione. Certo. Touché, tante di cappello. Però scusi, ma non è inquietante un partito come quello di Ingroia, un movimento che si presenta a nome in cui tutti i principali come dire leader, chiamiamoli così, o comunque sono tutti ex magistrati o addirittura non è un po' inquietante, no? Ma è inquietante che quei partiti in cui sono tutti ex delinquenti o delinquenti in corso d'opera, abbi pazienza. Va bene, di Pietro. Da una parte ci saranno i magistrati e dall'altra gli avvocati del premier. Nell'eterna lotta tra guardie e ladri. Ma io mi auguro che i cittadini cercano. Ma alla fine, scusi, anche Napolitano l'ha un po' isolata. Anche Napolitano ha voluto la sua testa da Bersani, o no? Prima o poi qualcuno si dovrà chiedere perché. Ma perché Napolitano? Anche Napolitano ha fatto pressioni. Non ne so nulla. Lei pure ha sparato a zero contro Napolitano, se la poteva risparmiare qualche cosa di Pietro. Che cosa voglio dire? Io non ho sparato a zero, ho affermato un principio. Vale a dire che fra tanti momenti, per andare a sollevare una questione di diritto e di principio generale, se le telefonate per essere ascoltato meno, proprio quelle che riguarda la trattativa Stato Mafia, la miseria. Certo. C'avevi tanto momento, per 7 anni c'avevi per sollevare questo problema, te lo ricordo proprio sulla trattativa Stato Mafia. Cioè, secondo lei, comunque le telefonate di Napolitano vanno rese pubbliche? Ma a me per esempio, non vanno rese pubbliche. Lui le deve rivelare. No, adesso non vorrei sapere. C'è un vuoto legislativo accertato già dal 1997 dalla Corte Costituzionale. Cioè, vale a dire che manca la legge che stabilisce cosa succede. Secondo la Cassazione, la Cassazione, no. Secondo la Corte Costituzionale, la legge 97 l'ha già stabilito. Quindi, sì. Che manca una legge che stabilisce che fine devono fare le telefonate. Sì. Che per caso un tizio che è sotto intercessione telefona al capo dello Stato. Rispetto a tutto questo, la Corte Costituzionale questa volta ha preso una decisione che va rispettata, anche se non condivisa. Detto questo, ma è contento che finisce lei è contento che finisce il settennato di Napolitano? Beh, io personalmente non sono rimasto soddisfatto. No, ma è contento che finisce. Le faccio un esempio, guarda. Questa volta non vorrei essere io il difensore d'ufficio, sì, fino all'anno scorso il Napolitano stava sempre attento a rimarcare la funzione importante del Parlamento, sì, che non poteva essere esautorata dal governo, e faceva bene a dire questo, sì, sì. In quest'anno siamo arrivati prima a un voto di fiducia a settimana, negli ultimi giorni un voto di fiducia al giorno. Spiega a che serve il Parlamento. Però, posso rivelare una cosa, lettera che ho scritto oggi a Napolitano. Una lettera a Napolitano, che lettera ha scritto? Sì, oggi ho scritto una lettera a Napolitano, magari se poi volete ve lo mando pure con tutti gli allegati, come facevo una volta nei requisitori. Allora, che c'è scritto? Una lettera personale o pubblica? No, pubblica, nel senso che la posso raccontare più tranquillamente. È successo in Parlamento un fatto gravissimo in termini di rispetto. L'ho letto, sì, è complessissimo. È una cosa complessa. L'ho letto sul sito. No, per carità, ma è una cosa complessa, però interessante. Non è una cosa complessa, è una violazione gravissima della Costituzione. Però io le chiedo una cosa: lei è contento che Napolitano finisce il settennato, sì o no? Che finisce il settennato, sì, che abbia fatto questo settennato, perché siccome l'ha fatto non sono affatto contento. È contento che se ne vada, che non sia più il Presidente della Repubblica, che ce n'abbiamo un altro. torno a ripetere oggi prima dell'altro, perché non voglio finire la padella alla brace. Ah, ecco. L'ultima cosa, ma lei le piacerebbe Santoro nella lista? Santoro ha già detto che non si candida, quindi è inutile che mi piacerebbe, è inutile che le mi chiede. E che ne so, Ingroia l'ha detto, Ingroia l'ha detto che mi le piacerebbe. No, no, non giocare. Ingroia ha chiesto chi sottoscrive il manifesto. Vabbè, sottoscrivere il manifesto, ma le piacerebbe, chi le piacerebbe in lista? Mi dica una personalità. Beh, lei mi piacerebbe. Ma che io, si figuri, non è possibile. Mi dica uno che le piacerebbe. Travaglio le piacerebbe in lista? Antonio Di Pietro va bene. No, Antonio Di Pietro ci sarà, vabbè. Ma Travaglio? Ma tu perché mi vuoi far rovinare le candidature? Una volta ho fatto il nome io, lo rovinate. Va bene, grazie, a presto. Ci sentiamo in campagna elettorale. Ci sentiamo in campagna elettorale. Divino? Se noi diciamo di, voi rispondete Divino? Di. No. Di. Siamo qui, siamo qua. Mi scusi del ritardo, dove si trova Divino? Ma che siamo ti scusi? Nella sede del comune di Cava dei Tirreni che ci ospita questa sera. Sì. Per l'evento in Piazza Duomo. Sì. Ma quale evento? Relativo alla fine del mondo. Stai zitto un attimo. Stai zitto, Divino. Ma è vero che lei non ci ha creduto nemmeno per un secondo, però un po', insomma, va in giro a sostenere il fatto che è tutta una buffonata, o sbaglio? Nella nostra ultima opera terrena, sì. Ocasus Mundi, sì. Teorie sulla fine dei tempi, come è ben noto, sì. Quest'opera è uscita oltre un anno fa. Sì, opera. Sì. Si esaminano le principali teorie e si giunge alla conclusione che la profezia maya tratta dal testo sacro del Cilambalam, sì. La tredicesima in particolare, è stata male interpretata. Tra l'altro fate tacere quel cibo insignificante, quella cosa inutile che tenete lì, mandatela a pulire le stanze anziché a parlare, che tanto non conosce l'italiano se non in modo alquanto incerto e altalenante. Stai zitto un attimo, Davide, scusa, fai parlare Divino. Come si diceva, sì, scusi. La tredicesima profezia contenuta nel testo del Cilambalam, sì. Non si riferisce al 21 dicembre. Ah, ecco, a che giorno? Casomai potrebbe riferirsi al 22 o al 23. Per cui ancora c'è pericolo in teoria. Beh, le date in realtà più credibili, no? Il 21, mai gli studiosi hanno pensato che fosse il 21. Sì. Invece l'occhio attento degli studiosi si è posato sul 22 e sul 23. Eccoci qua. Tuttavia, dalla nostra attenta analisi, attenta. È sempre il risultato, sì. Che nel 2012, sì. non esiste il pericolo, oh, ecco. Di fine del pianeta. Hai capito, Parenzo? Siamo tutti salvi. Sì, e sì, questo perché lui. I veri problemi, i veri pericoli di conflagrazione e di fine ultima, sì. Sono tutti incatenati al 2013, che è vero. Che è il vero annus horribilis. Beh, questo però mi preoccupa, scusi Divino, lei ci sta dicendo che il problema non è il 2012 ma il 2013, però se lei mi dà altri pochissimi minuti dopo la borsa, so che lei è molto impegnato in questa cosa di Cava dei Tirreni, però altri 5... Ma noi siamo qui in questo momento nella sede del comune di Cava dei Tirreni, ospite del sindaco e della giunta, e appunto fra pochi minuti in Piazza Duomo, sì. Daremo vita ad un possente rituale protettivo per proteggere il popolo che è ansioso. Anche noi però, a questo sì, punto. Certo, ma gli ascoltatori di questo programma pregevole naturalmente con l'eccezione di quell'insignificante omuncolo, sì. Ma a parte quell'aspetto lì, abbiamo già detto che coloro che saranno collegati, sì. A questa puntata, dipendono saranno comunque salvi. Saranno comunque salvi. Il tendone del circo l'avete montato, quindi la donna barbuta è arrivata già. A parte coloro che non lo meritano, naturalmente, che si autocondannano, sì. Ma gli altri hanno la certezza della salvezza finale. Se noi diciamo di, voi rispondete vino. Di? Vino! Di? Vino! Fate tacere quel tizio insignificante, quella cosa inutile che tenete lì. Mandatelo a pulire le stanze anziché a parlare. Io non so se Parenzo è preoccupato per il vaticinio che riguarda il 2013, che non è un vaticinio, è una previsione. Guarda, il 2013, Parenzo, però preoccupato di una cosa. Dimmi. Il fatto che questo comune, questa amministrazione abbia invitato il signor Bertelli, che si fa chiamare Divino, questo signore qui, signor Telma, dall'altra parte sono felice divino. Perché quando arriva il divino, quando arriva il circo in città è sempre una festa, quindi ci sarà lui, ci sarà la donna barbuta, ci saranno i leoni che saltano nel cerchio di fuoco, quindi bellissimo spettacolo circense con questo signore che farà questa ma scusa, questa ha detto che nel 2013 bisogna essere preoccupati, tu sì. Non... No, cioè, siamo tutti preoccupatissimi, cioè, è arrivato il circo in città, dai, quando viene a Roma il circo, Telma? Quando ma arriva in effetti, qui che... in effetti noi concludiamo su un punto con la corta analisi di Parenzo. Si potrebbe parlare di circo Barnum e manca appunto un elemento che di solito nel circo Barnum c'è sempre, il venditore di lupini che lui potrebbe svolgere egregiamente e in alternativa lo scemo del villaggio che anche quello è un ruolo che potrebbe egualmente svolgere con profitto. Tutto esaurito, c'è spazio perché noi siamo nella piazza principale di Gala dei Tirreni. Beh, il tendone l'avete già montato, il tendone del circo? Già affollata di popolo svannante. Sì, ma quale popolo? E quindi diciamo che qualche lupino qua e là potrebbe sempre essere un hai capito? Sì. Un circo scadente. Comunque per carità, grande spettacolo stasera, per fortuna gratuito perché nessuno pagherebbe mai il biglietto. Certo, per non sentire. Pagherebbero te perché cosa alzeresti? L'ascolto no, di certo, e anche su altri aspetti, diversi dall'ascolto, dubitiamo che tu possa alzare qualcosa. Sì. Per cui rimani pure in quell'altro divino. Dove trovi questi ingenui che ti danno ancora un pezzo di pane. E un po' di cacciotta. La cacciotta è interessante. Divino, però ci spieghi... Dite vino, di vino, un uomo beve il vino. Sì, va bene, non dire mai. Divino, penoso. Divino, scusi penoso. Un attimo. Una cosa molto triste, sì. Divino. Ma l'ha pagata sì. Il comune per fare questa pagliacciata o no? No, spero. Ma perché in questo modo, naturalmente, vi è la certezza di una piazza stracolma e naturalmente vi è un riverbero mediatico che giunge molto molto lontano, come sarà l'apertura di tutti i quotidiani domani, sicuro? Domani ma tutti i quotidiani adesso fermeranno le rotative, c'è sempre una ragione nelle cose che si fanno, certo. Non ce ne sarebbe alcuna nel sovvenzionare uno come te che non sa fare assolutamente nulla. Già, ma non è il problema, non sono io, il problema è lei. Cioè, io ho già parlato con Ferruccio De Bortoli che domani l'apertura sarà non su Ingroia, non su Monti, ma sarà Divino Telma in piazza. Sarà sarebbe, su quello, me l'ha detto sarebbe Bortoli certamente una cosa molto sensata, perché è indubbio che gli unici tre personaggi dell'anno come Cassari Italiani ha già dichiarato, sono Bersani, Grillo e Divino Telma, questo è evidente, cioè, a livello italiano, a livello internazionale Obama e Almagine già. Però scusi un attimo, quello chi l'ha detto che sono i tre personaggi dell'anno? Lui l'ha detto. Naturalmente l'abbiamo detto noi in risposta ad un quesito di Affari Italiani, ma è palese che si tratta della verità. È la verità. Scusi un attimo, certo. Ma questa storia di Sanremo. Fermate le rotative al Corriere, fermate le rotative. Galli della Loggia non scrive più il suo editoriale. Ci sarà un pezzo del Divino Telma e l'apertura. Non è la prima volta che il Corriere si occupa dei nostri Corriere dei Piccoli di vario genere, per cui non sarebbe una grande novità. Divino, scusi un attimo, com'è la storia di Sanremo dalla canzone? Scusi, ho letto recentemente nelle sue cronache che è successo l'ennesimo pasticcio a Sanremo. L'ennesima... Ma Sanremo, come tutti sanno, gli unici che hanno qualche speranza sì. di penetrare all'Ariston sono quelli che sono collegati alle major. E chiunque non sia sì, collegato certo. alle major e non abbia solide raccomandazioni e santi in paradiso sì. non ha alcuna possibilità. Ma lei ha proposto un'altra canzone per già sì, era successo la nostra casa discografica, la prestigiosa Records, ha proposto Pescatori di Anime. Pescatori di Anime si chiama? Sì, Pescatori di Anime con musica di Danilo sì. Amerio sì. e con controcanto di un'altra nota artista che per il momento non diciamo, tanto poi andrà in rete tra pochissimo. Sì, ebbene, è stata bocciata. Di ineguagliabile bellezza. A nostro avviso non è stato neppure ascoltato, dubitiamo fortemente che ciò sì. sia avvenuto. Viene usato come tortura Guantanamo la canzone. Della decisione, ma questo, ripetiamo, non stupisce perché è ben certo. noto che si va a Sanremo, deve essere protetto dalla cupola sì. E quando poi trionfa a Sanremo non vende nulla, non è ascoltato, sì, da nessuno, e così anche il contrario. Scusi un attimo, per concludere, Divino, salutando la piazza di immagino già stracolma di Cava dei Tirreni, sì, volevo... sono le file sin da Roma. Volevo dire... i pullman da Roma che sono partiti. Volevo dirle... No, tutta, da ogni dove, ovunque si è sparsa la notizia, la lieta novella, subito sono accorsi i popolani dalle contrade, dai campi, dalle officine, dalle barche, da ogni parte. Scusi, ma lei ha già espresso nelle varie sedi un vaticinio su Monti, se sarà di nuovo Presidente del Consiglio? Ha già espresso questo vaticinio? Naturalmente, oppure... noi abbiamo già risposto in questi giorni alle richieste delle principali agenzie di stampa nazionale e internazionale. Ah sì, pure internazionale. E quindi anche le nostre previsioni sono pubbliche già da un paio di giorni, sì. L'ANSA li possiede, anche la DN Kronos, sì, tutti certo. Possiedono le nostre, non le pubblicano, però. Quindi sappiamo già, il popolo italiano è in grado di sapere cosa, sì, esattamente accadrà nel 2013, chi vincerà la pugna cartacea. Sì. Ma Monti sarà di nuovo Presidente del Consiglio? Non me le ricordo queste previsioni, le ho lette distrattamente, mi perdoni. Noi ci siamo pronunciati sugli esiti conclusivi della pugna cartacea, sì, e abbiamo sentenziato, sì, che il centrosinistra risulterà vincitore, sì, primo elemento. E secondo, sì, elemento, che Berlusconi non vincerà e sarà relegato in un angolo di opposizione, sì, ma lo sanno tutti questo. Poi? Lo sanno coloro che sanno, naturalmente, poi, coloro poi? Che riescono a penetrare oltre il velo. Hai capito? Sì. Ma chiunque poi, lo dice, discute di sta roba oggi. Poi? Il problema della governabilità del Parlamento, noi abbiamo già annunciato che il Parlamento risulterà scarsamente governabile. Ah, scarsamente governabile, ecco, dunque ci sarà un problema. Scarsamente governato, capito? Certo. E Monti? Ma io non so come fa ancora a stare in giro Monti, uno così. Comunque, dall'analisi che noi abbiamo condotto, risulta svolgere, sì, nella novella veniente legislatura un ruolo centrale. Avrà un ruolo centrale. È un ruolo di snodo delle pulsioni circonvicine, per cui nodo in ogni caso, per, sì, poter portare la barra nella giusta direzione, dai, sì, bisognerà fare riferimento al professore. Hai capito, Parenzo? Ma lo dicono tutti, ma c'è scritto su tutti i giornali, mi manda i matti, sono giorni che si scrive questa cosa. È indifferente quello che è scritto sui giornali, anche perché, come è del tutto evidente, i giornali scrivono quello che noi abbiamo detto. Hai capito? A ripetere le nostre parole, questo è facile constatarlo, perché prima noi che sono giorni noi che scrivono questo, una valutazione immediatamente, le valutazioni fuoco, sono lanciate dalle agenzie, naturalmente ma i giornali rilanciano, è logico. Hai capito? In questo straordinario show radiofonico imbastito dal signor Cruciani, dopo la divinazione di Otelma, manca soltanto la scimmietta che si arrampica sul campanile. No, ma quella c'è, ci sei tu, il problema non esiste. Questo non è male. È bello risolta la cosa, insomma. No? Volevo capire, lei si presenterà in questa piazza? Potrebbe anche vendere Lupin, quindi si potrebbero unire i due elementi, sì, in un tutt'uno omogeneo. Ma questo è tarato in testa proprio. Ma lei si presenterà in questa straordinaria piazza gremita? Tra l'altro ci sono dei pullman che sono partiti da stamattina da Roma per venire da lei. Si presenterà in questa piazza con quel pullman, cappello? Ma cosa vorrebbe dimostrare? I pullman sono un segno osceni dell'amore del popolo, il popolo che vuole essere protetto. Vabbè, allora? Il popolo che vuole la salvezza. Ma è gente disturbata. Chi viene lì è gente disturbata. È gente disturbata. Capisci o no? Gente disturbata. Ma che volevi dire? Disturbata. No, dico, ma lei si vestirà stasera con quegli abiti agghiaccianti da pseudo sultano di Canicattì, con quei colori di un kitsch pazzesco, quei turbanti, ignoranza, un'ignoranza che non ha confine, che li avviluppa, no, un incubo, insomma, un incubo che inizierà le loro povere vite e le spazzerà via in un ghirigoro e marcescente. Caro Divino, la saluto, stia bene. A presto. Vi benediciamo, figli di letti, vi benediciamo. Grazie. Non beva però, non beva troppo. Se noi diciamo di, voi rispondete vino. Di? Vino. Di? Vino. Se noi diciamo elo, voi rispondete im. Elo? Im. Zin, zin, la zanzara. Zin, zin. Oh, oddio, non ce la facevo più, Davide, non ce la facevo più, non ce la facevo più, non ce la facevo più. Ero in lacrime. Avrei continuato fino alle 10 di sera, solo col divino. Tra una cosa e l'altra, e poi il divino. No, il fatto vino, è che è un uomo ormai disperato. Se noi diciamo Elo, voi rispondete Im. Elo? Him. Elo? Him. Mai al mondo. Allora io ti dico una cosa, Se noi diciamo alcol, noi diciamo Telma. Se noi diciamo vino, noi diciamo Telma. Vino, nel senso che beve vino. Io comunque dico una cosa, no David, alla fine se uno manda registrato lo spettacolo di Otelma a Cava dei Tirreni, dove diavolo si trova Otelma in questo momento, ma sarebbe comunque un trionfo del kitsch, un trionfo del artistico, un trionfo di ascolti. Uno bisognerebbe vederle queste cose, certo noi le guardiamo con altri occhi. No, dovrei chiedere alla Sette di inviarmi lì a raccontare questa roba, ma sono anche... è come andare al circo, nel circo non ci sono animali feroci, ma tanti, come appunto quel signore lì che va in giro con quei vestiti che non è finita. Massimo da Genova, mancano ancora 10 minuti e poi andiamo in vacanza. 10 minuti e poi in vacanza. Torniamo? Sì, torniamo. Torneremo, no? Che dici? Torniamo? Ma io ci sono, se vuoi. Torniamo, quando torniamo? Il 14, quando torniamo? Possiamo tornare anche prima, se lo ritieni, ma il 14 credo sia la data giusta. Alza il volume. Mai al mondo sarà la... Se noi diciamo di... Voi dite vino. Di vino. Mai al mondo sarà... È un uomo disperato. Ma prima o poi lo becco, Prima o poi lo becco. Prima o poi lo becco. Prima o poi lo becco. Ma poi mi ha mandato ai matti quando a un certo punto ha detto Monti avrà un ruolo centrale la prossima... Ma si può dire una... Ma c'è scritto ovunque da me. Ma lui ha fatto degli studi. Ha fatto degli studi. Ma quali studi? Il divino Telma con quel... Che gira a pare... Poi io lo immagino a casa. Riccardo da Pescara. Ah, no, c'era Massimo da Genova. Massimo. Perché nessuno lo arresta? Ecco. Uno che gira così per strada deve arrestarlo. Massimo. Pronto? Dica. Sì, ma dica. Allora, senta, lei ha mandato in onda la Mussolini. Bene. Mi sente? Sì, la sento. Bene, allora, la Mussolini praticamente parla sulla pelle di due persone che sono morte. Beh, con il nome che porta lei, almeno questo non stupisce, perché la Mussolini è... Ma perché? Che ha detto di grave? Scusi, che ha detto di grave? Ma ha detto che lei innanzitutto non farebbe ritornare i Marò in India, che comunque l'India sta facendo una sceneggiata... Vabbè, secondo lei, ma l'ha già detto la Russa oggi, andrebbero candidati in Parlamento i due Marò, candidati in Parlamento per non restituiti all'India secondo gli accordi. Secondo me questa cosa non succederà. La lezione di civiltà facendo tornare. E adesso lezione di civiltà all'India, non esageriamo. Questo processo e noi, pronto? Sì, e noi dice. E noi giustamente ci sono alcuni fascisti che dicono che come premio di realtà, di concretezza, qual è la risposta? Di fronte a un gesto di questo genere. Almeno, a parte che abbiamo pagato 800.000 euro. Abbiamo pagato, le segnalo che abbiamo pagato 800.000 euro noi. 800.000. Sì, ma non per sottrarre le persone al processo, mi risulta, o mi sbaglio. Ma no, certo, abbiamo pagato per questo periodo di. Di lusso, non è un appartamento di lusso in qualsiasi città italiana. No, abbiamo pagato per queste vacanze, per questa, come si chiama quando uno è militare si prende una licenza, per questa licenza. Maristel Polanco, ciao Maristel. Buonasera, come state? Lei come sta? Come stai tu? Anzi, ti citavamo del tu, no? Senti, senti cara Maristel, ma come hai preso il fidanzato? Come hai preso? Si è sposata, no? Giusto, Maristel? Ah, già. Quando ti sei sposata? Il 18. Ma che bello. 18 dicembre. Adesso, il 18 dicembre. Sì. È una cosa fantastica. Dove ti sei sposata? In Svizzera, in Italia? Dove? In Svizzera. In Svizzera. Ma ti abbiamo svegliato? Che stai facendo? È la voce, perché ho urlato troppo. Oggi? Come mai hai urlato troppo? Che hai fatto? Cosa hai urlato? Avete già litigato con tuo marito? Sì, abbiamo fatto. Che avete fatto? Cin cin. Cin cin, mamma mia, che voce, che bellissima voce che è. Io la adoro questa donna. peccato, avete trasformato peccato questa radio in radio porno. No, che c'è? Radio Punga Punga. Ma che c'entra radio porno? C'è la Polanco. Ma che c'entra? C'è la Polanco. Ma hai fatto i bravi, ragazzi. No, io sono bravissimo. Noi sì. È Parenzo, sì, è Parenzo. No, scusa, ma si è vestito? Io pensavo che Parenzo non c'era più. Ah, lei pensava che Parenzo non c'era più. No, no, portato via i Maya, pensavo. Ah, i Maya l'avevano portato via. Senti, Maristella, ma mi dici qualcosa di questo fidanzamento di Berlusconi con la Pascale? Ah? Questo fidanzamento, ci credi? Io? Ci credi al fidanzamento di Berlusconi? Sarà fidanzato, sì. Ma Sei delusa? Sei un po' delusa? Io? Dimmi la verità. Perché? Da questo fidanzamento, no? Adesso tutte le... Non sono delusa. Spiegami bene perché. Perché innanzitutto c'è la storia che solo 2.500 euro al mese. No? Devi esserci tu al suo posto. E poi secondo... ma io sono già sposata. Adesso ti sei sposata. Comunque fra Berlusconi e me c'è qualcosa che ci lega tutta la vita, anche se si fidanza o no, capito? Che cos'è che vi lega tutta la vita? C'è qualcosa, lo sa lui, lo sa. L'assegno. Cos'è che vi lega tutta la vita che sa lui, scusa? Non lo so, ma è una cosa tra noi. Ho capito, lo so che è una cosa tra voi, però vi lega che cosa? Un amore, le serate passate insieme, un ricordo, cioè lui... I 2.500 al mese. Alla fine ti dovrà sempre dare qualcosa, dici tu, no? Certo. No, non ho detto questo, 2.500 al mese. Cioè, no, non è quello lo dice Parenzo, lascia perdere Parenzo. Quello non è niente. Cosa che dice lui? No, quello che dici tu, rinuncia, che cos'è che ti lega, che ti legherà comunque a prescindere dal fatto che è fidanzato? È una cosa che lo sa lui, lo so io, lo sa anche lei, scusa. Cioè, lo sa anche lei addirittura? Tu mi hai detto che è un po' delusa. Lui deve fidanzarsi, cioè, un giorno. Perché con si lei, deve fidanzare? Con chi? Beh, ma tu dici che è una cosa un po' mediatica, un po' per le elezioni, questo fidanzamento? No, non lo so, non ti so dire niente. Ma è più sereno adesso? Lo vedi più sereno accanto a questa ragazza? Sereno? Lui lo vedi più sereno accanto a questa ragazza oppure no? Oppure alla fine lui non può essere fidanzato per come è fatto? Vabbè, in questo momento di politica non credo che sia sereno. Non è sereno, eh? Ma secondo te Berlusconi si può fidanzare oppure alla fine... È impossibile che si fidanzi, ha bisogno si sempre... Si può fidanzare, sì, con una donna... Una donna? Come ti posso dirti? La donna che lo rappresenti bene, sì. Ah, come una donna di rappresentanza. Poi ha sempre bisogno intorno di circondarsi di altre donne, o sbaglio? Di bunga bunga. No, ha sempre... Quello ha sempre bisogno di bunga bunga, no? Giusto? Sì, o no? Cioè, Berlusconi senza bunga bunga non è Berlusconi. Non c'è bunga bunga. No, ma questo è vero, no, ma è così. Sì. Cioè, ma è un po' appunto come dire il cielo senza Berlusconi le stelle. Berlusconi sarebbe? Che Berlusconi sarebbe? Ma senza... bravo, no, voglio dire, alla fine, no, se hai fatto il bunga bunga, non è che puoi sfuggire al bunga bunga per tutta la vita, o sbaglio? Ma certo. No. Lasciare. Ma quando è l'ultima volta che hai fatto? Risponde. Quando è che hai fatto l'ultima volta bunga bunga con Berlusconi? Non mi ricordo, sai. Un mesetto fa. Ah? Un mese. Ma tu sei tanto, ma voi siete veramente, io vi adoro. Un mese fa hai fatto bunga. Chiamare la Polanco, una donna così importante, così bella, tempo prezioso per chiedermi. Chiedetemi cose concrete che nessuno mai mi ha sardato ad chiedermi. Cosa pensa qual della è? Per esempio, cosa dovremmo chiedere? Il decreto sviluppo. Cosa le dobbiamo chiedere? Mi scusi, cosa il le dobbiamo chiedere? Il decreto sviluppo, chiedile. Vabbè, ma dovevate dirlo voi, non dirlo io, vedi, adesso ti ho detto, adesso me lo chiedi. Allora, ma l'ultima volta che ha fatto bunga bunga con Berlusconi, quando è stato? No, ma che bunga bunga di Berlusconi? Bunga bunga, guarda che non è niente. Bunga. Vabbè, non è niente, adesso dipende. Insomma. Solo un assaggio di... Ma che cosa ha regalato? Solo un assaggio di quello che viene dopo. Ma che cosa le ha regalato per il matrimonio Berlusconi? Tanti problemi. Ma sono pochi questi soldi che le dà, 2.500 al mese? Sono pochi per campare oppure no? Beh sì. vabbè, io sempre l'ho detto, io ho sempre lavorato, quindi adesso la mattina io guadagno. Guarda, caro, io ho sempre lavorato, caro mio. No, è vero, lavorato, sì, in televisione. L'ho sempre detto, certo. Anche tu ti dico della lavoro. Ma la Pascale è la donna adatta? È la donna adatta per Berlusconi, la Pascale, sì o no? La donna data Berlusconi non esiste, non guarda, esiste. Bisogna, ancora non è nata. Non è nata, forse non nascerà mai. Io ti adoro, lo sai, purtroppo sei sposata, se no ti adoro. Sei sposata, sei troppo sposata. Sei troppo sposata, tesoro. Ma che a presto, ciao. Ma è tutto finito. Tutto finito. Un bacione, buonanotte. Ciao. Ma come buonanotte? L'ha letto alle 9. Ci sentiamo non so quando, il prossimo anno. Ciao David. Cioè, io e te ci sentiamo comunque. Sì, ci vediamo anche prima. Ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Cornuto! Radio 24. La passione si sente.